L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Potevamo non partire da qua, dalle parole di Carlo Tavecchio, il caso Tavecchio che impazza, perché è intervenuta anche la FIFA poco fa e ha chiesto all'Italia, alla Federazione Italiana del Gioco del Calcio, di fare una inchiesta e di verificare se ci sono state da parte del candidato alla guida della FIGC affermazioni di stampo razzista. Difficile, difficile dire se queste frasi di Tavecchio sono una scivolata o una banalità o sono affermazioni razziste. Sicuramente di fatto sono state affermazioni razziste, e forse gli varranno anche la corsa contro Demetrio Albertini alla guida della FIGC, perché ci sono una serie di squadre di Serie A che si sono defilate: la Sampdoria, la Fiorentina, ma anche il Cesena. Notizia di oggi. Risentiamo allora le frasi di Tavecchio per capire e per risentire esattamente che cosa aveva detto. Le questioni di accoglienza sono un conto, le questioni del gioco sono un altro. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano se hanno professionalità per farli giocare. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. E va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Ora devo dire che tutti quelli che seguono il calcio, ma anche altri sport in generale, insomma, sicuramente gli sport in Italia, dove ci sono sempre più stranieri, e spesso ci si domanda: ma perché c'è in campo questo qua che non ha niente di meglio dei nostri giovani? E poi abbiamo appena visto la figuraccia dell'Italia al mondiale, ma non voglio fare un'entrata scivolata sui temi sportivi, però insomma voglio dire, il concetto espresso da Tavecchio non è che sia una cosa così sbagliata o così non condivisibile, però certo queste parole dette così, sono scappate in pubblico, non se le un presidente della FIGC non se le può permettere, non c'è niente da fare. Ricordiamoci che in America il patron di una squadra di basket, adesso non ricordo quale fosse, i Clippers di Los Angeles credo, è stato radiato a vita dall'NBA, cioè non si può proprio più far vedere, non può più andare alle partite, tantomeno gestire squadre di basket in America per una frase sulla presenza dei neri o meno alle partite di basket. Apriti cielo, una serie di dichiarazioni del mondo politico, soprattutto la parte del centro-sinistra, che se la prende e attacca Tavecchio. Cominciamo con Fratoianni di Selle e poi la Serracchiani del PD. Non c'è dubbio che la frase che Tavecchio ha pronunciato sia una frase che è il segno di una sottocultura razzista, che è molto più importante della frase in sé, è il segno di un'idea, di un linguaggio, di una cultura che rischia in un ruolo del genere di produrre danni senza precedenti. Beh, insomma, lui ha fatto bene a scusarsi, ma farebbe ancora meglio se rinunciasse ad occupare quel ruolo, insomma è un ruolo estremamente delicato. Oh, però c'è subito chi ha stabilito un parallelo proprio con il mondo politico. Se si usasse lo stesso metro di misura anche per il mondo politico, allora che dire di Calderoli, che è correlatore niente proprio di meno che dell'altro grande argomento, tra l'altro, di attualità di queste ore, la riforma del Senato. E allora a dircelo, per esempio, con queste parole Olivier Robea: stiamo calmi. penso anche che se ci regolassimo con lo stesso criterio anche in politica, adesso non staremmo a parlare delle riforme del Senato fatte dalla Finocchiaro e da Calderoli, il quale Calderoli, se non sbaglio, girava con un maiale qualche tempo fa. Quindi insomma stiamo molto attenti in termini di rapporto con i musulmani, insomma stiamo molto attenti, cerchiamo di essere equilibrati e di avere un dosaggio nelle cose. 800 24 00 24, cari amici ascoltatori, chiamate, vogliamo sentire la vostra su questo argomento. Io lo dico subito, io per me manderei a casa sia Calderoli che Tavecchio in par condicio, tranquillamente. Ma risentiamolo, va, un Calderoli, credo che fosse a maggio, che si esprimeva così, sempre in tema di banane. Mi mangio anch'io la banana? L'ho presa piccola perché a me le banane non piacciono, però ho fatto lo sforzo. Però preferisco la frutta che cresce a casa nostra che le banane. Però voglio dire una cosa, tutti hanno diritto di mangiarsi la banana, ma a due condizioni. Prima, la banana te la devi comprare e pagare, non prenderla con la paghetta che danno quando arrivano in Italia. Secondo, ciascuno è pregato di mangiarsi la banana a casa sua, perché qualcuno ha il difetto di buttare per terra le bucce, e se ce ne sono troppe di bucce qualcuno poi va a finire che si fa male con tante bucce in giro. Vabbè, risate, sghignazzi, schiamazzi, certo, se uno una cosa del genere la dice a casa tra gli amici o usando un po' di ironia stupida, forse, vabbè, che vuoi dire, passi. Ma in un luogo pubblico, da parte di persone che hanno dei ruoli pubblici, queste frasi proprio non si dovrebbero proprio sentire più, basta con queste, ma veramente. E quindi ripeto, io, se per me, in piena par condicio, tranquilli politici, tranquillo anche Giovanardi, che invita a minimizzare su Tavecchio perché appunto ricordando il precedente di Calderoli, io manderei a casa tranquillamente Tavecchio e Calderoli. Largo ad Albertini nel calcio, a qualcun altro, adesso i candidati sono loro, quindi se la giocheranno loro. 800 24 00 24, ma c'è anche la politica. Oggi i grillini si sono riuniti con il loro capo indiscusso, Beppe Grillo, per parlare di come affrontare queste settimane calde di ostruzionismo in Senato. Per quanto riguarda la riforma del Senato, sentiamo Di Maio. Noi ci siamo seduti al tavolo e loro ci hanno detto no e ci hanno messo una tagliola al Senato che praticamente soffoca tutte le opposizioni. Ci ripensino, aprano sui temi importanti, il Senato elettivo, l'immunità parlamentare, la riduzione dei deputati e i loro stipendi, e noi ci saremo. Entro l'8 di agosto qua combineranno delle cose incredibili, quindi faremo, ci organizzeremo con qualcosa. E poi, chi l'ha visto il testo scritto del patto del Nazareno? Due giorni fa, Toti, il consigliere politico di Silvio Berlusconi, ha detto: io l'ho visto il testo scritto di quel patto, è l'unico ad averlo detto. Chissà se è un'affermazione incauta, una gaffe, oppure se ha semplicemente detto una cosa che molti sapevano e che non avevano confermato. Sentiamo. Il patto del Nazareno è un foglio di carta che prevede alcune tappe del processo di riforma schematiche che poi sono state approfondite dal Governo. Tu l'hai visto questo foglio di carta? Un appunto scritto appena. L'hai visto? Ma sì, l'hanno visto molti dirigenti di Forza Italia. Esatto. No, non ho fatto una fotina. Semplicissima nella sua banalità, la legge elettorale, la partenza era il modello spagnolo. Da fare, il Senato prevedeva tre clausole: la non elettività, il non compenso e la fine del bicameralismo, ovvero la doppia approvazione delle leggi. Questo è il patto del Nazareno su un foglio a quadretti. Ci sono le firme sotto, Nessuna firma, è l'unico foglio di carta che è stato fatto. Ma chi l'ha scritto i due? Ah, guarda, la calligrafia Verdini, non era di Berlusconi, no, probabilmente sarà stato di Verdini, Guerrini, non lo so. Va bene, insomma, ore calde di attesa, ore calde ad agosto, per forza, siamo quasi ad agosto, non poteva che essere così, per la riforma del Senato, insomma, 8.000 emendamenti, ostruzionismo, un muro di emendamenti contro le intenzioni del governo Renzi e della maggioranza. Oggi sono riuniti i grillini, continuano a parlare di svolta autoritaria, non solo loro, anche una minoranza del PD, una minoranza di Forza Italia, chissà come andrà a finire. 800 24 00 24, facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. E salutiamo Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Appena sceso da un aereo, l'abbiamo intercettato. Sì, è diretto al Senato. Diretto al Senato. 12 giorni di non stop. Tra poco si voterà la fiducia sul decreto cultura e poi domani mattina si torna al tema riforme. Il calendario, come è noto, prevede appunto sedute praticamente ininterrottamente dalle 9.30 a mezzanotte tutti i giorni fino all'8. Vediamo che succederà politicamente, perché poi non è solo un problema di quantità di tempo, ma di qualità delle decisioni, visto che si parla della Costituzione. Sì, prima di entrare nel discorso della qualità di queste decisioni, però insomma già un discorso si può fare. Si era parlato di maratona, però la maratona inizia di martedì, perché il lunedì i parlamentari rientrano sempre con calma. Ora non mi riferisco a lei, Gasparri, cioè, seppure. Ma questa abitudine, no? Ma che senso ha? Lei dice una sciocchezza. Questa mattina i lavori sono iniziati alle 11, ha parlato la senatrice Di Giorgi, che ha fatto la relazione sul decreto cultura, poi c'è stata la discussione sul decreto cultura, poi il governo intorno alle 16.30-16.40 ha messo la questione di fiducia, si è svolta la conferenza. Quindi tutto come previsto, insomma. E quindi la votazione, stanno per iniziare, sono in corso anzi, le dichiarazioni di voto alle 19.30 inizierà la chiama per il voto. Però non c'è una pratica per cui... Questa rappresentazione allegorica del lavoro politico parlamentare è una delle più grandi fesserie. Che circola, perché poi oltre al problema del lavoro parlamentare, fa il politico con serietà e con dedizione, poi non è che si, come dire, impegna solo nel Parlamento. No, vabbè, però io ho fatto solo un riferimento. Posso parlare anche con voi, no? Cioè, io non, per dire, voi mi chiamate. Certo, fa parte del lavoro. No, ma io ho fatto solo un riferimento, lavoro, Gasparri. Non entro nella. Non è un lavoro, è una missione per chi la fa. Quindi anche comunicare quello che si fa. Ma allora si comunica il lunedì, il lunedì e il venerdì si comunica, il martedì, mercoledì e giovedì fa parlare. Io sto comunicando con voi di lunedì, però domani mattina, io per esempio domani mattina inizio la mia giornata, alle 8 vado alla trasmissione televisiva insieme ad altri politici, poi vado in Senato e ci sarà la giornata di lavoro parlamentare. Il problema è che generalmente i lavori parlamentari si svolgono dal martedì al giovedì e gli altri giorni ci sono anche altri tipi di impegni, poi quando è necessario, perché vede, il problema non è la quantità delle leggi, ma a volte è la qualità delle leggi, perché un'altra delle contraddizioni, in Italia a volte si dice quest'anno hanno approvato meno leggi, poi si dice ci sono troppe leggi in Italia, bisogna disboscare. Quindi il problema è la qualità del lavoro. Ma io do per scontato, però, Gasparri, che per avere un po' di qualità ci vuole anche un po' di quantità, cioè se uno non ci lavora sulle cose non ne viene fuori niente di buono. Ma non volevo aprire questa questione, era solo in giro nel mondo della politica e del giornalismo, che dalla sera alla mattina diventano ministri o conduttori di programmi, ma per arrivare a un posto di governo, per condurre un programma, bisogna aver fatto, come me e tanti altri, molta gavetta prima. A chi lo dice a proposito di gavetta? Senta, a proposito delle decisioni, Gasparri, però non se la prendo, ho solo fatto una battuta su questo, che insomma ci può stare. No, ha detto una fesseria. Ho detto una fesseria. Non credo di aver detto una fesseria. Una fesseria l'avrei detta se avessi parlato. Mi faccia dire una cosa, Gasparri. Una fesseria l'avrei detta se avessi parlato delle vacanze lunghe o corte, no? Questa è un'altra questione. Ogni anno, quante vacanze fanno i parlamentari? Basta guardare quello che avviene in altri parlamenti, dove le vacanze ci sono, il lavoro del Parlamento si ferma come da tutte le parti per un mese e anche più, in Italia forse si ferma addirittura per meno tempo. Quindi su questo sono d'accordo con lei, sul fatto della settimana corta mi consenta di esprimere qualche dubbio, ma non è questo l'argomento di cui volevamo parlare. Ripeto, non è una settimana corta, il Parlamento si può riunire tutti i giorni, ma il problema, uno dovrebbe monitorare qual è l'attività che svolgono alcune persone. Se io vado a un convegno o ricevo delle delegazioni o mi informo su una questione, avrò una qualità, come diceva giustamente lei, di decisione. Io vorrei, se non so nulla, documentarsi, sentire, confrontarsi, leggere. Ma allora questo andrebbe allora istituzionalizzato, cioè bisognerebbe prevedere delle corsie, degli spazi in cui il Parlamento è chiuso e i parlamentari si aggiornano. Deve fare tutto contestualmente, purtroppo, perché le faccio un esempio, c'è un'agenda, ci sono dei provvedimenti, uno è interessato a quei provvedimenti, deve averli studiati e deve aver anche parlato con tutti quelli che da quei provvedimenti sono coinvolti, per poi farsi una sua opinione e risponderne ai cittadini. Insomma, l'attività politica, per chi la fa seriamente, è una cosa molto impegnativa. Poi per quelli che la fanno male, come in tutti i settori della vita umana, e bisogna essere molto severi. Va bene. Senta, Gasparri, a proposito di serietà, lei era serio quando ha detto che ci vogliono i test antidroga per i senatori? Sì, perché ho visto gente molto sovraeccitata ultimamente. Perché? Siccome una vecchia, beh, vedo gente sovraeccitata, secondo me. Allora, lei sa che sono stati introdotti, non so se vengano attuati, mi auguro di sì, dei test, perché per esempio quelli che guidano gli autobus, si ricorda, ci sono stati incidenti, ahimè, con drammatiche conseguenze anche di gite scolastiche, e quindi si pose il problema di controllare quelli che guidavano i pullman, perché se lei manda suo figlio alla gita scolastica pretende giustamente che insomma sia affidato in buone mani. Perché si fa il controllo per uno che guida un autobus e uno che cambia la Costituzione, che è un esercizio ancora più delicato di guidare un autobus, non deve essere in buone condizioni psicofisiche? Io sono appena sceso da un aereo, mi auguro che il pilota che l'ha guidato, che era arrivato regolarmente, venga sottoposto a dei controlli, a delle visite, no? Anche lei prenderà l'aereo, quindi vuole essere sicuro che il pilota sia nella piena efficienza delle sue condizioni fisiche. Questa però è una vecchia cosa, no? Che si è già detta sul fatto dei controlli antidroga per i senatori, però lei l'ha tirata fuori adesso perché vede troppa eccitazione nei senatori in questo ostruzionismo alla riforma del Senato. No, in questo periodo, ma adesso vediamo, siccome poi si va verso una non stop di molti giorni, 12 giorni, 9, 24, che in qualsiasi ambiente sarebbe motivo di stress, se nella vostra radio ci fosse una persona che deve stare al lavoro dalle 9 alle 24 tutti i giorni, probabilmente al terzo giorno comincerebbe ad avere qualche affaticamento. Allora io vorrei che ci fosse tranquillità, lo so che non può essere attuata domani questa cosa, però siccome se ne parla da anni, e lei ricorderà, una volta ci pensarono i conduttori di un programma televisivo, però senza alcuna attendibilità, senza le Iene, come no, specificità. Poi una volta lo facemmo volontariamente, alcuni parlamentari, ci recammo, pure io, c'era un laboratorio di analisi mediche vicino a Piazza San Silvestro a Roma, però eravamo alcuni e non altri, chi ha qualcosa da nascondere casomai non ci va. Io ritengo che, avendo visto molta eccitazione, sia opportuno riproporsi questo tema, perché non è... Ma chi è il più eccitato che ha visto in giro per il Senato? Venga in tribuna, li vedrà, guarda. Non c'è problema. Ma io sto a Milano, non ce la faccio a venire. Mi dica lei qualche nome. È il canale 525 di Sky. Senza muoversi da Milano ci sono i lavori del Senato trasmessi in diretta. Molte volte si addormenterà perché sono tranquilli, noiosi, c'è gente che parla, come il Parlamento. Poi vedrà, quindi non devo svegliare io nomi, ci sono gli atti parlamentari che lo testimoniano. Ma c'è visto ultimamente molta agitazione, più del solito, e siccome io mi occupo di lotta alla droga da molti anni, uno dei temi della mia presenza, tante volte vado nelle comunità, parlo con gli operatori, parlo con i ragazzi usciti dalla droga, so riconoscere una persona. Renzi ha detto che ci sono queste passeggiatine al Quirinale che lo insospettiscono. No, beh, quella è una manifestazione politica, quella non mi meraviglia. Renzi, se faccio una ragione, io non c'ero nella passeggiata al Quirinale e sto sostenendo la riforma, anche se qualcosa si può migliorare. Se però pacificamente dei parlamentari si recano al Quirinale per esprimere il loro dissenso, l'hanno fatto in quel caso pacificamente, e però con più quelli che a volte nelle aule si esibiscono in performance esagerate, o addirittura nei corridoi fuori dall'aula, che insomma in aula a volte uno può anche avere la televisione, della telecamera, della ribalta, a volte alcuni danno luogo alle scandescenze fuori dalla ribalta, che mi fa più immaginare a un'alterazione psicofisica. Ma c'è troppo ostruzionismo, in effetti, sì, l'ha detto anche lei. È un po' sì. Bisognerà sfoltire un po' questi emendamenti. Però le ripeto, bisognerebbe anche aprire un po' di dialogo, perché poi l'ostruzionismo nasce da una questione seria, oggettivamente, cambiando la Costituzione. Mi pare che Renzi a volte sia più alla ricerca dello scontro che non a praticare il dovere del confronto. Senta, ma ascoltare di più. Questa cosa che ha detto Toti del foglietto di carta con su scritto il patto del Nazareno, secondo che non l'aveva, ammettiamo anche che fosse vero, nessuno l'aveva rivelato. Dirlo così è stata una gaffe da parte di Toti. Io ho parlato oggi con Giovanni Toti di questa cosa, ci abbiamo riso sopra. Lui ha detto che era semplicemente un foglio con elencati i temi. Ognuno di noi, lei avrà un foglio con la scaletta degli argomenti che deve trattare oggi, io qua nella mia agenda o nell'iPad o negli sms che conservo, ma lui ha detto che era la scaletta dei temi, non è che abbia rivelato niente, cioè riforma costituzionale, legge elettorale, era un elenco di punti riforme. Insomma, non era il contenuto, non era lo svolgimento del tema, erano solo i punti. Nel momento in cui si incontrano Berlusconi Renzi c'è una, come dire, che prepara l'incontro e si decide di cosa parlare. Non credo che sia un mistero che abbiamo parlato della riforma costituzionale, della legge elettorale. Poi ci sono altri temi che nel paese ci sono da sempre, il tema della riforma della giustizia, la riforma del lavoro. Toti ha detto che era un elenco di titoli, quindi, anzi, mi sembra che l'equivalenza era deludente. Non c'è un testo definito e firmato, c'era semplicemente, da quel che ha detto Giovanni Toti, un elenco di titoli. E quindi, come se lei scrivesse oggi, c'è una trasmissione, telefoniamo a Gaspari, facciamo un'altra cosa. Poi era la scaletta, insomma, e quindi non c'è niente di, non c'è niente di particolare. Vabbè, quindi averlo detto anche da parte sua era una cosa inutile. Senta, invece, a proposito di... Ecco, bravo. A proposito invece del caso Tavecchio, che è cosa che diciamo, sta assumendo una certa importanza perché ci sono reazioni, squadre di calcio che adesso non lo sostengono più dopo le sue frasi sugli stranieri che mangiano le banane. Lei ha detto una polemica esagerata. Sì. Qualcuno ha detto, beh, allora anche Calderoli dovrebbe dimettersi, è il correlatore insieme alla Finocchiaro perché della riforma. No, per le sue frasi, quelle contro la Chieng, sul fatto di mangiare le banane. Abbiamo appena fatto sentire. Ma guardi, io non ho difficoltà a dire che questa uscita è stata un'uscita infelice. Poi le devo dire la verità, io non ho mai visto Tavecchio in vita mia, non lo conosco. Non lo conosci. E devo dire che dal curriculum che ho letto sui giornali, dalle notizie, indubbiamente non mi sembra una persona che possa dare una spinta innovativa. Il calcio è uscito malamente dai mondiali, poi era stato già il nostro calcio maltrattato nel 2010, noi usciamo da due esclusioni al girone eliminatorio nel 2010 in Sudafrica e nel 2014 in Brasile. Io che sono gli italiani appassionato di calcio, sono molto dispiaciuto di questo. Quando lessi sui giornali, anzi devo dire la verità, la prima persona che mi diede diciamo questa situazione fu il senatore Carraro, che oggi ha fatto un'intervista sul Corriere della Sera. Sì. Carraro, che è un dirigente storico dello sport italiano, sì, sì, Conconi, sì. Attualmente senatore nel mio gruppo di Forza Italia, e mi disse settimana fa che c'era questo Tavecchio che era il favorito. Leggendo il suo curriculum, ha avuto un po' di problemi da amministratore locale, c'ha 71 anni, non è che mi abbia esaltato, però io non ho alcun ruolo nella vicenda. Devo dire che l'eccesso di attacchi, ieri mi è sembrato, sentendo un po' la televisione, facendo lo Zappi, uno schieramento di polemiche da parte del PD, francamente spropositato rispetto a una frase sbagliata, inopportuna. Sarà pure, guardi, io essendo tifoso, e non vorrei fare il Tavecchio bis, tante volte ho visto tanti giocatori italiani o stranieri che arrivati in campo tra squilli di tromba si sono rivelati poi dei bidoni. Quindi a volte il bidone, si dice una volta, si ricorda questo termine. Come no? Ma la sostanza di quello che ha detto Tavecchio, gli appassionati di calcio la pensano probabilmente, non la sostanza in termini di banane, ma in termini di troppi stranieri, su quello non c'è dubbio. Sì. Italiani e stranieri, di bidoni che si sono... Più stranieri, va, diciamolo, più stranieri. E hanno guadagnato un sacco di soldi. Sì, ma molti anche italiani, insomma. Io mi ricordo. Però scusi Gaspari, detto questo, però perché secondo lei le squadre di calcio però si sono intestardite su Tavecchio? A parte adesso la Fiorentina che si è sfilata, il Cesena, la Sampdoria. Evidentemente Tavecchio, avendo 71 anni, c'ha questo nome, poi è sfigato perché c'ha questo nome che lo condanna, no? Tavecchio, 71 anni. Già parte male. Minori sì. Per abusi d'ufficio, cioè vicende giudiziarie, da quel che leggo dai titoli, perché non ho letto i dettagli, mi sembrano vicende, non siamo di fronte a Ballanzasca, insomma, ecco, è stato sindaco a lungo. Un po' democristiano, 71, come dire, non sembra il massimo della modernità. Poi anche sto nome, si fosse chiamato Tanuovo, invece pure Tavecchio. Questa parola è troppo facile, Gaspari. Comunque lei auspica che ci sia qualcun altro. No, io non è che guardi, non ho nessun ruolo. Mi sono meravigliato che il presidente della Lega Dilettanti avesse questo favore. Poi ho visto che l'hanno sostenuto pressoché tutti. Poi oggi tutti mi hanno spiegato, guardi, oggi le faccio uno scoop. Ci erudisca. In aeroporto, Ito Cucci, che è un giornalista sportivo, e mi dice che, ad esempio, la Juventus non ha appoggiato Tavecchio perché ci sarebbe un po' di ruggine tra la Juventus e il sistema calcio, diciamo, la nomenclatura del calcio, di cui Tavecchio fa parte, anche se nella Lega Dilettanti da molti anni. Per tutte le vicende si ricorderà che la Juventus ha subito, ha patito, la Juventus deve chiedere ingiustizie, gli scudetti assegnati, non assegnati, la Serie B. Ma questo me l'ha rivelato Italo Cucci, spero di non avergli fatto un dispetto, ma Italo Cucci è una persona, lei lo conosce, insomma, autorevole nel mondo del calcio. E mi dice, per la Juventus ce l'ha contro Tavecchio, la Roma francamente non lo so. Però decideranno quelli del calcio. Se uno si aspetta da Tavecchio scintille, non arriveranno. Ha ragione, guardi, oggi ho letto una cosa saggia di Carraro. Albertini, che non conosco altrettanto, che è giovane, attenzione perché bisogna un po' rinnovare, ma quando io vedo alcuni ministri nuovi, in questo governo all'opera, li vedo privi di esperienza. Vedo la Madia, vedo la Mogherini, vedete, sì, però non mi faccia troppo l'equilibrio, perché prima dice che bisogna rinnovare, poi se sono troppo giovani senza esperienza non va bene, che dobbiamo fare, Gasparri? Faccio un esempio. Dobbiamo buttarci da qualche parte, no? Il governo Berlusconi era guidato da una persona che non era giovanissima, ma c'erano 4-5 ministri, la Garfagna, la Meloni, Alfano, la Gelmini, che erano tutti largamente sotto i 40 anni quando furono nominati, per cui può darsi che ci voglia un pilota esperto e poi dei membri dell'equipaggio che si facciano le ossa. Così però mi sta dicendo che Tavecchio va bene, ma a parte questo conosco sinceramente, no ma ho capito qual è il suo punto di vista su questo. Le voglio chiedere un'altra cosa però, Gasparri, mi faccia fare un'altra domanda veloce, che poi dobbiamo salutarci che c'è la borsa. Renzi a Genova è andato a fare una comparsata, qualcuno l'ha accusato di questo, però diciamo la verità, ci fosse stato Berlusconi sarebbe andato anche lui o no? Probabilmente sì, secondo me in questi casi bisogna stare un po', come dire, un passo indietro, anche perché si è sottovalutato il danno fatto all'ecosistema, il danno fatto alle casse pubbliche e i morti che ci sono stati rispetto a questo evento. Sembra che abbiamo fatto il record mondiale perché è stata portata prestazione apprezzabile sotto proprio l'ingegneria. Vabbè, però Renzi l'ha detto, non è una giornata di festa. Insomma, questo... morti, danni. Io voglio ancora capire quanto lo Stato ci ha rimesso per questa vicenda, tutti questi interventi. Va bene, va bene. Alla fine. Avremo tempo sicuramente per tornare anche su questo. Intanto grazie mille, buon lavoro. Grazie a lei. A Gasparri, buona serata. Borsa. Si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate. 800 24 00 24. Cominciamo a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori. Andiamo con Armando che chiama da Firenze. Buongiorno, buonasera. Buonasera, mi sente Amancio comunque. Come si chiama, scusi? Amancio. Amancio, Amancio. In redazione avevano capito Armando. Amancio, un nome che però non è italiano, o sì? No, è un nome di origine spagnolo. Ok. Prego, Amancio. Sì, volevo dire, sì, siccome ho sentito hanno paragonato Tavecchio a Calderoli, no? Sì. Io secondo me, nonostante il caso di Calderoli sia altrettanto grave, però io lo metterei in secondo piano rispetto a questo qui di Tavecchio, perché questo va a toccare la sensibilità, l'argomento dei bambini, che riguardano anche bambini e così via. Forse per me Calderoli è una cosa che sentiamo noi grandi, ormai siamo vaccinati, a sentire tutte queste cose. Cioè lei dice la politica è un ambito adulto, lo sport è un ambito anche dove ci sono i giovani e quindi bisogna stare più attenti alle parole. Quindi, va bene, può darsi. Io mi meraviglio che fino ad oggi tante altre squadre non abbiano pronunciato come lo ha fatto Fiorentina, insomma. È preoccupante la cosa. Va bene, grazie Amancio. C'è la Fiorentina, grazie. C'è il Cesena, c'è la Sampdoria, mi risulta fino ad ora che hanno fatto capire che non lo appoggeranno più dopo queste frasi nella sua corsa, diciamo, alla guida della Federcalcio, che lo vede opposto a Demetrio Albertini. Roberto da Udine, buonasera. No, Roberto non c'è più. Allora Giuliano, sempre da Udine. Ecco. Sì, pronto. Prego. Ecco. No, niente, io durante volevo fare l'intervento su Tavecchio, no? Che tormentone. Sì. Comunque il fatto è determinante, perché Tavecchio non è uno qualsiasi e dovrebbe rappresentare il calcio che oggi ha mille problemi e mille cose. Quindi una persona che ha una certa capacità di capire, bastava che lui, quando ha fatto l'intervento, dicesse che molte volte arrivano in Italia calciatori che non sono sempre all'altezza. E questo naturalmente di tutti i generi, perché abbiamo visto che sono arrivati calciatori di tanti generi che veramente non sono all'altezza, senza fare un riferimento verso quel calciatore, di coloro che sappiamo che cosa è stata, che cos'è il razzismo, eccetera. Anche perché da lì dimostra. E quindi da lì dipende, vuol dire che a un certo momento non ha le capacità intellettive per mettere, avere quella freschezza di capacità, di interpretativa, di sapere un po' presentarsi. E in questo vi faccio riferimento anche, mi permette di dire due parole riguardo all'intervento di Gasparri. Sì, d'accordo, io ho 73 anni, io ho fatto per tanti anni il dirigente sportivo anche di società, però le posso dire, ho avuto qualcosa di mettermi in parte, perché i giovani, d'accordo, hanno un'esperienza, non hanno esperienza, ma hanno l'entusiasmo e soprattutto la cultura, che oggi molti dei nostri non hanno, zero di cultura, non valgono niente. quindi sono preparati, capaci. E oggi come oggi, cosa vuoi che c'è dell'esperienza, che oggi è talmente, con la globalizzazione è talmente superata in continuazione che basta poco per essere aggiornati. Va bene, largo ai giovani in qualche modo, cioè gli anziani, insomma, quelli che hanno i saggi, teniamoli lì sicuramente per dire a loro, per continuare a fare da consiglieri, per avere dei ruoli, forse il ruolo di primo piano per uno che ha fatto tutta questa carriera interna di dirigenza, forse il ruolo di primo piano può andare a qualcuno che ci metta anche un po' più di energia. Conta anche quello, 71 anni, oggi normalmente si con le leggi che ci sono in Italia si dovrebbe andare in pensione, ed è giusto anche che sia così, ecco, insomma, senza voler essere offensivi poi nei confronti di Talecchio. Andiamo con chi andiamo? Franco da Cosenza. Sì, buonasera. Buonasera. Salve. Prego, tocca a lei. Sì, volevo dire brevemente che ho sentito tante pippe da Gasparri. Guardi, qua c'è poco da discutere. Talecchio è un'espressione becera di un mondo becero, qual è quello del calcio, purtroppo, che è il mondo che ha provocato quelle vicende indecenti dello Stadio Olimpico, eccetera. Evidentemente Gasparri è espressione dal punto di vista politico di questo mondo, quindi Talecchio lo rappresenta dal punto di vista sportivo. Intanto Galliani Gasparri dice: confermiamo l'appoggio a Talecchio. Ma certo, questo è il mondo becero del calcio, che provoca mostri, e i mostri li abbiamo visti anche attraverso morti negli stadi, eccetera. Ed ecco perché è un mondo che non può reggere più. Poi nel confronto internazionale facciamo le nostre figure, quindi tutto è legato, secondo me. Non è che Talecchio nasce così, Talecchio è sorretto da quelle società che hanno provocato questa situazione nel calcio italiano e vogliono ancora mantenere facendo i furbetti. Va bene, io sono abbastanza d'accordo con Franco, che ci chiama da Cosenza, devo dire la verità. La ringrazio. No, non era un complimento, ma era così una presa di posizione. Alberto da Bergamo. Sì, pronto? Buonasera, tocca a lei. Buonasera. Prego. Io di calcio non so nulla, sì. Però le parlo ovviamente da 45 anni, ex imprenditore, ex risparmiatore e tartassato dallo Stato. Questo è il signor Gasparri compreso, che è quello che comunque faceva parte dei governi prima, dovrebbe iniziare a stare zitti e iniziare a fare qualcosa di propositivo. Purtroppo oggi come oggi sento anche tantissimi amici, ne basta che ne parta solamente uno che poi succede veramente una cosa molto spiacevole, perché comunque siamo veramente arrivati non alla frutta, al caffè, alla mazza caffè. Va bene, grazie. Mi fate dire anche un'altra cosa, perché c'è questa campagna che riguarda il femminismo in America e questo hashtag lanciato da alcune ragazze che si chiama Woman Against Feminism, cioè sono delle ragazze che hanno scritto su Twitter e hanno avuto un grande rilancio: non mi serve il femminismo perché le donne e gli uomini sono uguali, oppure non mi serve il femminismo perché mette le donne contro gli uomini, o ancora non mi serve il femminismo perché se un uomo mi fa un complimento non lo considero un insulto. Ecco, questa visione, diciamo, da parte delle adolescenti americane, di queste adolescenti americane, di quello che può essere stato o può essere ancora oggi il femminismo, ha sconvolto un po' le femministe, ma non solo, perché è una visione che, come dire, dimentica forse quelle che sono le differenze ancora oggi che ci sono tra uomo e donna. Per dire, sono di giornata le notizie in Europa, il Consiglio Europeo ha calcolato che ci sono non so quanti donne morte per mano dei compagni uomini ogni giorno, le differenze sul mondo del lavoro, si fa meno carriera ma lavorano di meno le donne. Ecco, tutto questo ha lasciato un po' di stucco. Allora noi suggeriamo un altro hashtag, che è: ragazzi, studiate, cioè imparate le cose, informatevi, cercate di capire da che parte va il mondo prima di dire delle cose del genere, anche perché al di là del fatto che uno può essere o meno d'accordo con il femminismo, quello che è stato o quello che sarà, ripeto, informiamoci, cerchiamo di capire quali sono ancora oggi, per esempio, quanti ricordano che il delitto d'onore in Italia è stato abolito solo nel 1981, cioè in un'epoca già di supermodernità, il delitto d'onore che dava delle attenuanti al marito che ammazzava la moglie, insomma. questo nel 1981. Quindi ragazzi, studiate l'hashtag che proponiamo su questa campagna. Tra l'altro c'è in onda in questi giorni ancora uno spot del governo sulla parità tra uomo e donna, cioè mentre in America spopola l'hashtag Woman Against Feminism, noi in Italia sentiamo questo, sentite? Quando torno a casa vorrei... Stare zitta e muta. Al lavoro vorrei... Fare carriera sotto la scrivania, eh? Quando cammino per strada mi piacerebbe... Una mattarella! Dopo gli studi mi piacerebbe... Non rompere! Quello che chiedo alle istituzioni è... Un paio di schiaffi? In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso. Va bene, scrivete su Twitter, si può fare con l'hashtag ragazzi studiate, se siete d'accordo con noi, oppure Woman Against Feminism, se invece la pensate diversamente. 800 24 00 24. Traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. The Place, un bel posto dove andare in questi giorni, è al Festival dell'Ecologia Eco Futuro, un festival organizzato dal 26 luglio al 2 agosto da Jacopo Fo, scrittore, attore fondatore del progetto Libera Università di Alcatraz, che organizza anche questo festival Eco Futuro proprio in questi giorni. Buonasera a Jacopo Fo. Buonasera a voi e grazie di questo spazio. E soprattutto di questo endorsement, no scherzo, è un endorsement sentito, perché con Si può fare, il programma che va in onda il sabato e la domenica mattina su Radio 24, il buongiorno del weekend, noi spingiamo l'Italia che cerca di guardare più avanti, di guardare oltre, le buone notizie, anche il tuo mondo. Jacopo, non ci conosciamo ma ti do del tu, perché da questo punto di vista ti sento vicino. Allora, intanto cosa attende il visitatore che viene a trovarvi in questo festival, che come sottotitolo è Festival delle Ecotecnologie e dell'Autocostruzione? Ma innanzitutto ci sono laboratori, stiamo costruendo oggetti con le stampanti 3D, con il gruppo WASP, con il Politecnico di Milano, l'Università, un progetto straordinario che tra l'altro vuole arrivare a costruire delle case d'emergenza in argilla stampate, cioè si arriva con un camion che stampa le abitazioni, una cosa da fantascienza. E abbiamo veramente tante cose da fantascienza, dagli attrezzi agricoli, le vanghe che non ti spezzi la schiena, a sistemi per filtrare l'acqua dei rubinetti e smettere di comprare l'acqua minerale, a sistemi anche complessi che non hanno potuto portare qua, ma ad esempio un sistema per diciamo estrarre sabbia dal fondo marino, separarla e in maniera ecologica, togliendo qualunque tipo di inquinante e ripascere le spiagge. Oppure abbiamo... Perché c'è un problema con le spiagge che sono si svuotano. Noi abbiamo in Italia grandissimi problemi, ma abbiamo anche grandissime soluzioni, perché la cosa che si scopre è che gli italiani sono eccellenza nel mondo nei progetti ambientali e di efficienza energetica. E qui abbiamo una serie di ricercatori, di imprese, di università che portano nuovi materiali per l'edilizia ecologica, motociclette da trial che sono state modificate. chiamate a elettrica, insomma tantissimi progetti. Io infatti volevo chiedere qual era l'invenzione più straordinaria che c'è, però ne hai già dette alcune. La vanga con cui non si fa fatica mi incuriosisce. La vanga ergonomica, è una vanga indistruttibile che ha un sistema sia di impugnatura rotonda in cima all'asta della vanga, sia una forma particolare per entrare nel terreno. Insomma, noi stiamo rivedendo quello che abbiamo fatto per millenni o per secoli, così quella prima che veniva fuori buona, sì. Ad esempio sono venuti dei comuni che aderiscono alla rete dei comuni virtuosi, sì, che hanno dimostrato che è possibile tagliare non solo le spese del comune, ma addirittura ci sono 29 comuni in Italia che i cittadini non pagano la bolletta. Allora, quando noi scopriamo che città come Milano o Roma hanno più di 20 milioni di bolletta elettrica per l'illuminazione pubblica perché usano delle lampadine vecchie, che erano già vecchie 20 anni fa, cioè una roba pazzesca, incredibile la lentezza. Si parla di crisi economica, noi stiamo dimostrando che si stanno buttando via i soldi. Tra l'altro, cose assurde, un'altra per dire, qualunque cittadino credo che inorridirebbe se sapesse che un pannolino viene comprato dall'ospedale a 20 centesimi, 30 centesimi, per smaltirlo viene considerato un rifiuto pericoloso e costa 1,50 euro, 2 euro. Ci sono noi le stiamo proponendo da 10 anni, delle macchine che triturano, polverizzano i rifiuti, li sterilizzano e li rendono inerte. Voglio dire, parliamo di avanzi di mensa, pannolini, medicazioni, cioè no, cose biologiche, cose organiche. Senti, Jacopo, cose chimiche. Però, per esempio, anche guardando adesso all'esperienza del governo Renzi, che sta cercando di cambiare, per qualcuno apparentemente, altri lo giudicano con maggiore sostanza in tanti aspetti, mi sembra che quello dell'ambiente rimanga molto in sordina. Cioè la green economy, quando si parla all'estero, in Italia si dice è una potenzialità, qualcosa che deve ancora arrivare, all'estero è una realtà. Adesso c'è una notizia, per esempio ti voglio leggere dall'India, se la trovo, incredibile, che hanno deciso di piantare 2 miliardi di alberi dando lavoro a 300.000 giovani per diminuire l'inquinamento. Questa per dirne una, no? In Europa negli ultimi 3 anni il 40% dei nuovi posti di lavoro sono dall'efficienza energetica, dalla cura dell'ambiente, eccetera. Cioè, ma la cosa che però io voglio dire è, siamo di fronte ad alcune cose che, questo io non capisco Renzi, io spero che ce la faccia, però non capisco perché non si fanno un pacchetto di leggine elementari voglio dire, urlano la follia del mondo. Cioè, quando noi abbiamo delle aziende che hanno degli scarti che sono assolutamente biologici, che non fanno male a nessuno, che te li puoi mangiare, ma siccome sono scarti di aziende vengono considerati rifiuti industriali. Cioè io in Italia non posso dire, ma guarda che questa roba qui che io butto via in realtà è una materia prima che può servire agli altri. Il paradosso che è stato raccontato qua di un agricoltore che ha 500 mucche, no? Che fanno la cacca, lui vuole fare un impianto di gestione di questa cacca per produrre gas, perché la merda è oro, diciamo. Ecco ragazzi, no? Viene da ridere, ma parliamo di cose serie, non c'è niente da fare. Parliamo di cose serie, parliamo di una ricchezza. Il nostro petrolio sono le fogne che buttiamo nel mare invece di sfruttare per fare biogas e energia elettrica. E non lo può fare l'agricoltore che ha anche le mucche. Lui va in comune e gli dicono, se lei, quando lo sterco entra nel biogas è un prodotto agricolo di scarto, quando esce, siccome ha fatto l'energia elettrica, è un prodotto industriale, lei lo deve conferire in discarica. Viene da piangere a pensare a questo. Hai capito? Arriviamo che poi c'è il burocrate che, interpretando la lettera, il testo della legge, attenzione, non è lui che è un po' esagerato, però voglio dire, stando alla lettera c'è ragione il tecnico del comune. Ma cosa ci vuole a fare? Sono leggi di 2 righe, sono leggi che d'accordo la destra, la sinistra, il centro, i grassi e i magri, cioè sono cose che noi abbiamo bisogno. Noi ogni giorno facciamo un'analisi di un problema e quello che viene fuori è che se si cambiasse quella cosa lì sui rifiuti ospedalieri, che si smettono di buttare in discarica quelli biologici, risparmieremo 400 Tonto. Milioni di euro, quell'altro 1 miliardo di euro, quell'altra cosa, cioè sono soldi che si risparmiano, soldi pubblici. Ma cosa aspettiamo? chiediamo perché tra l'altro anche gli imprenditori italiani, noi abbiamo presentato una serie di tecnologie strepitose che vengono utilizzate all'estero, che non vengono utilizzate in Italia. È una cosa incredibile, e abbiamo qui della gente che ha, italiani, che hanno delle invenzioni che spiegano di giorno in giorno, stiamo facendo sia, diciamo, i laboratori divertenti, ci sono i laboratori per i bambini, c'è la chimica, mamma chimica che insegna come usare il bicarbonato come deodorante, eccetera, eccetera, ma poi abbiamo della gente che porta dei progetti straordinari che non trovano nessuno che gli dà retta, devono andare fuori e poi dice c'è la crisi economica, ma no, c'è una situazione di panico e di follia collettiva, per cui le grandi idee degli italiani nessuno gli interessa, diciamo, finanziarli, appoggiarli, aiutarli, eccetera, e non importiamo le grandi idee dall'estero degli altri popoli, è un'assurdità. Ma direi che per parlare di questi contenuti del festival Eco Futuro, secondo me ci possiamo risentire in settimana, perché mi sembra che di cose a dire ce ne sono tantissime e sono delle scoperte, credo per la maggior parte degli ascoltatori, straordinarie, a meno che non abbiano già frequentato i blog o letto qualche libro, sempre un po', no, come se fossero delle cose segrete, perché non si sa. Ma comunque noi stiamo facendo un'operazione su alcatraz.it, sì. È disponibile tutta la, diciamo, lo trasmettiamo in diretta tutto quello, tutti che i contenuti, qua, bene, ed è possibile anche andare a vedere nell'archivio quello che abbiamo fatto nei giorni precedenti. Andatevi a vedere per favore come hanno fatto questi sindaci che sono venuti a raccontarci come hanno fatto a risparmiare i cittadini e come hanno tagliato tutte le spese, ma migliorando i servizi, perché questo è il discorso, qui si taglia con la cecità, noi dobbiamo tagliare lo spreco e aumentare i servizi per i cittadini. In un minuto ti voglio chiedere però un'altra cosa prima di salutarci, perché mentre voi all'Eco Futuro discutete e ragionate su queste cose, in Senato si ragiona della riforma del Senato, appunto, tu hai un blog anche sul Fatto Quotidiano, quindi ti esprimi anche su fatti di attualità, pensi anche tu alla svolta autoritaria come qualcuno denuncia per quanto riguarda questa riforma del Senato, oppure no? Ma vedi, io credo che sia necessario fare un cambiamento drastico, per cui io sono non d'accordo, d'accordo sul fatto di fare una sola camera, di snellire tutto, perché è una cosa da fantascienza come funziona l'Italia. D'altra parte è vero che alcune cose vengono fatte senza la cura del dettaglio. Così come Renzi va nei grandi problemi ma non entra poi appunto nella piccola leggina che puoi fare domani mattina, sono tutti d'accordo, e che mia madre proponeva al Senato nel 2007, perché cioè, sono leggi che sono giacenti nel Senato da anni e non ci si occupa di questo, si occupa dei macro problemi. Così in questa riforma sono state fatte, messe dentro alcune porcherie che creano poi dei problemi, perché non le mettiamo a posto? Cioè, io credo che in questo momento, è una cosa rara in Italia, siamo tutti d'accordo sulla sostanza che bisogna velocizzare il sistema, almeno tutti quelli, diciamo, di buon senso e di buon cuore, poi ci sono i ladri, i farabutti, ma questa è un'altra categoria. Voglio dire, c'è un'unità che parte dalla destra e arriva al Movimento 5 Stelle. Ci salutiamo, ci dobbiamo fermare qua, grazie Jacopo Fo, ci risentiamo sicuramente in settimana, Giornale Radio. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare, ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare, si può fare, l'attualità anche d'estate. Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori da Alessio Maurizi con Si può fare, staremo insieme sino alle 20:30 in tutto il periodo dell'estate, l'attualità è per digerirla anche un po' di buone notizie, questa è la formula che del resto trasloca sì dal buongiorno del weekend di Radio 24 alla buonasera, ma insomma in questi orari sempre microfoni aperti per gli ascoltatori. Tavecchio o non Tavecchio, è uscito il calendario della Serie A, allora abbiamo qui con noi il nostro Dario Ricci per dare subito un'occhiata per gli appassionati e capirci qualcosa. Eccoci qua, vale. Alessio, prima giornata 31 agosto, bella, leggiamo tutta così facciamo, sì, tutti contenti. Atalanta-Verona, Cesena-Parma, Chievo-Verona, Juventus, quindi a Verona i campioni d'Italia, Genoa-Napoli, Milan-Lazio, interessante, molto interessante, Palermo-Sampdoria, Roma-Fiorentina, Roma grande favorita, si parte subito forte, Sassuolo-Cagliari, Torino-Inter, classicissima, e Udinese-Empoli, questa è la prima giornata, quindi ce n'è per tutti e i gusti. Poi c'è subito un Milan-Juve abbastanza presto, no? Milan-Juve alla terza giornata, mentre il piatto forte della seconda, beh, la seconda vedo che potrebbe essere un Sampdoria-Torino, un Parma-Milan sempre stuzzicante, mentre appunto alla terza c'è Milan-Juventus, Palermo-Inter, un Udinese-Napoli, beh, insomma, direi inizio abbastanza conciliante per la Roma, perché dopo la Fiorentina c'è l'Empoli e il Cagliari, la Juventus pure, però alla terza c'è subito questo Milan-Juve e sarà interessante questo Allegri che torna subito a San Siro a scontrare la sua ex squadra. Infatti. Va bene. Grazie Dario. Non so se vuoi sbilanciarti subito sul futuro della Federcalcio. Ta vecchio, futuro. No, cioè se farmi un pronostico, così tra un po' ci risentiamo. Tanto agosto tu sei qua. No, vai in vacanza poi. Beh, fino a Ferragosto. A Ferragosto perché sapremo lui, esatto, perché l'11 ci daranno. Io dico Tavecchio forse. Va bene. No, secondo me alla fine ce la farà. Però è una partita ancora da giocare, perché cioè, la cosa curiosa di questa cosa è che già rimpiangiamo Abete, no? E non ce lo saremmo mai. Mamma mia! No, il partito dei dimettetevi a tutti i costi, sì, è il vero sconfitto, perché a questo punto al per come ci sono messe le cose, al peggio in Italia non c'è mai fine, ma per fortuna si può fare lo stesso. Va bene, grazie Dario Ricci, copertina. Questioni di accoglienza sono un conto, le questioni del gioco sono un altro. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano se hanno professionalità per farli giocare. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. E va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Guardi, a me sembrava piuttosto spontaneo nell'utilizzarle. Io parto da questa considerazione. Si chiede giustamente a tutti di cambiare e di rinnovarsi, prima di tutto alla politica. Si chiede alla politica di tornare ad essere esempio. Beh, insomma, non può non essere così anche per quanto riguarda lo sport e soprattutto i massimi livelli dello sport. Io vi porterò a Parigi. A Calderoli ha detto molto, molto di peggio. E non si è chiesto le sue dimissioni da vicepresidente del Senato, adesso è lì, che sarebbe uno dei padri della riforma, quindi una frase da condannare assolutamente sì, ma se la politica se ne cesse fuori sarà il mondo del calcio a dirimere questa questione. Insomma, ci voleva Giovanardi per ricordare ai politici che si stanno scaldando in queste ore per il caso Tavecchio che se dovessimo utilizzare lo stesso metro, beh, insomma, Calderoli, che niente proprio di meno è in questo momento il correlatore della riforma del Senato assieme alla Finocchiaro, e non dovrebbe essere, insomma, al suo posto. 800 24 00 24, oggi riunione dei parlamentari grillini con Beppe Grillo. Non c'è in gioco solo un dialogo, c'è in gioco la democrazia di questo paese. Io vorrei citare colleghi, artisti, intellettuali, gente che sa di giurisprudenza, costituzionalisti, gente che prendono la parola. Perché devo essere io a dire queste cose che c'è in gioco? La democrazia e la libertà di questo paese. Altro argomento di discussione, insomma, dopo la lettera di Berlusconi ai leader dei partiti di centrodestra, sostanzialmente ad Alfano e a pochi altri, c'è stata la risposta di Alfano, non molto conciliante. Allora sentiamoli, prima Toti e poi Alfano. Il presidente Berlusconi con la sua lettera di questa mattina ha tracciato un percorso e ha offerto una soluzione ai dirigenti del centrodestra per tornare uniti e vincenti. Ci auguriamo che tutti sappiano cogliere il significato di questo appello, mentre fino ad ora sono arrivate solamente risposte timide e un po' contraddittorie. Un grande e rinnovato patto tra tutti coloro i quali vogliono rifondare un centrodestra completamente diverso da quello del passato, perché il vecchio centrodestra, così come era concepito, è morto e non esiste più. Beach on the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto luna ancor di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. E allora Beach on the Beach, andremo quasi ogni sera a quest'ora, anche se per andare sulla spiaggia forse è un po' tardi, soprattutto bisogna vedere se non sta piovendo come accade in queste ore a Milano, per vedere un po' che aria tira sotto gli ombrelloni delle spiagge italiane, parlare con gestori, bagnini, organizzatori di eventi delle spiagge più strane, più originali, più interessanti dal nostro punto di vista che ci sono in Italia, e per sentire un po' di che cosa si parla sotto gli ombrelloni. Questa sera siamo con Daniela Bartoli, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, a tutti i radioascoltatori, buonasera a lei Alessio. Diamoci del tu, Daniela. Benissimo, molto bene. Facciamo un collegamento informale dalla spiaggia, dall'alta marea, Beach Village di Cattolica. Siamo in un classico del mare italiano, sì, Cattolica. Sì. Siamo sulla riviera romagnola. Prima di tutto, come sta andando dal punto di vista meteo? Perché qua piove. Allora, qui oggi è stata una giornata bellissima, a dispetto del meteo, infatti ci sono tutti gli operatori romagnoli un po' arrabbiati, perché quest'anno non ne azzeccano una. No, ci ha fatto più danni il meteo della grandine, perché le persone, soprattutto in tempo di crisi, prima di mettersi in viaggio fanno due conticini, per cui uno, a parte il fatto che nelle città non è stato poi tutto questo caldo da incentivare le persone a muoversi, a investire anche dei risparmi per portare fuori i bambini al mare, per quello che è un po' il nostro target familiare, no? Sì. L'idea di far respirare il bambino l'aria buona, quindi se in città non c'è tutta questa afa, tutta questa calura, in fin di conti si fa il centro estivo, si fa la piscina, in tempi di diciamocelo un occhio di attenzione ce lo mettiamo tutti. Per noi in quest'estate, io dico che sta diventando la parola variabile una costante, perché una volta i bagnini venivano interpellati, il mio babbo ha sempre fatto il bagnino, qua venivano giù i clienti e i bagnini sapevano esattamente dire, guardando a sud, a ponente. Devo dire che Daniela, hai ragione, il bagnino del bagno dello stabilimento dove vado io in Toscana, dove vanno i miei, fa così, lui sa sempre tutto, guarda e ti dice tra due ore cambia il vento, stasera piove, domani c'è il sole, cioè ti fa proprio quella, non è il bagnino, è il gestore dello stabilimento, ma insomma... Sì. Ha proprio quell'area lì. Beh, bisogna andare anche contro il meteo, perché in effetti quelli del meteo fanno il loro lavoro e sicuramente a volte non ci azzeccano, poveretti, e non credo siano felici loro per primi, però questo vi danneggia. Come sta andando però la stagione dal punto di vista invece della crisi? C'è gente? Allora, gente è in flessione, chiaramente. C'è flessione. C'è un po' di crisi, noi non amiamo il lagnometro, però di fronte a una situazione effettiva, anche con tutto l'entusiasmo che ci contraddistingue. Che ma facciamo una percentuale, di diminuzione dei nuovi bagnanti da un anno all'altro quest'anno? Allora, noi diciamo sempre che la statistica, il bilancio lo facciamo alla fine, alla fine dell'estate. Sì. Allora, sospendiamo ora... il giudizio, sospendiamo il giudizio. Voi sì. siete una spiaggia, noi abbiamo scelta anche perché siete una spiaggia ecosostenibile, una struttura completamente ecosostenibile, sono pannelli solari, fotovoltaici, sì. filtrate l'acqua, ne fate tante. Una scelta, diciamo, di vita, una scelta anche economica? Una scelta economica, perché tutti noi siamo un pool di 13 operatori, diciamo che siamo nati con 11 soci che hanno unificato 8 stabilimenti balneari precedenti, veniamo tutti da sì. questa tradizione romagnola. E avete fatto romagnola. Degli investimenti in comune, immagino. Esattamente, quando abbiamo costruito dalle ceneri dei vecchi stabilimenti, che comunque ci rimangono nel cuore, perché fanno parte della nostra tradizione, diciamo fisicamente l'alta marea era il 2002 e abbiamo deciso sì. di intraprendere la soluzione dell'ecosostenibilità quando siamo stati un po' i pionieri di questa scuola. Ecco, ma la gente che viene a trovarvi, Daniela, cioè vi riconosce questa specificità oppure non se ne accorge nemmeno? Cioè è un motivo anche per scegliere un posto dove andare a fare il bagno? Ultimamente sta diventando una cultura sempre più diffusa, a parte se ne fa molta più comunicazione rispetto a qualche anno fa, si sono adattati anche i condomini, le strade, i comuni a questa politica di ecosostenibilità. Per noi già da allora questo cosa ha voluto dire? Fare degli investimenti anche economici, sì. perché allora costavano anche tanto questi impianti. Comunque, insomma, questo investimento vi sta ripagando, perché la gente, come sì. dici tu, adesso ci sta attenta anche a questi aspetti e quindi molto. Vi segue anche su questo. Ma cosa succede a quest'ora, alle 7:30 di sera sulla spiaggia di Cattolica? C'è gente? Momento diciamo che i nostri clienti si stanno dirigendo quasi tutti verso gli alberghi, perché nella nostra zona si cena anche fra le 7:30 e mezza, le 8:00 e mezza. Non fate l'happy hour, l'aperitivo? In spiaggia da noi decisamente poco, perché il target di clienti nostri sono famiglie con bambini, però diciamo che il sabato e la domenica sì, abbiamo dei bar sulla nostra. Quindi a quest'ora, se io puntassi l'obiettivo sulla spiaggia dell'Alta Marea Beach Village di Cattolica, vedrei gente che va dalla spiaggia verso l'interno, cioè gente che lascia la spiaggia. Noi vi avevamo chiesto anche di così fare una piccola censimento di cosa si parla sotto l'ombrellone oggi, lunedì 28 luglio, nel pomeriggio di Cattolica. Sei riuscita a cogliere qualche impressione tra le persone? Non so, si parla di cosa si parla? Di riforme? Allora, non credo. No, tralasciando il discorso del meteo. Il meteo, molto il meteo. Esatto. Molto. Noi parliamo molto di animazione in spiaggia. Di cosa fare durante la giornata. Esatto, parliamo tanto di programmazione, anche di quello che si fa da noi in spiaggia. Cioè, e cosa è si la fa? Domanda. Cominciamo presto la mattina, cominciamo alle 9:30 con dei laboratori per i bambini, sì. e diciamo tipo ecosostenibilità. Alle 9:30, ma io alle 9:30 dormo, Daniela, come si fa? Anche mia figlia, tra l'altro, di 3 anni, sì. alle 9:30 dorme ancora. Davvero? No, sì. I nostri sono già belli pronti, cosa c'è allora? Cosa fanno gli animatori? Perché poi le attività cominciano tutte. Forse perché sanno che c'è una grande offerta da parte vostra e quindi si svegliano sì. ancora più ringaluzziti, sapendo che si inizia la giornata sì. così. E poi come anche si prosegue? Poi c'è animazione anche la sera, quindi alle 9 hanno la baby dance, i bambini, e quindi c'è animazione anche nel Ma il vostro è uno di quegli stabilimenti dove, se io mi voglio appisolare un attimo o leggere un libro, non riesco, perché c'è la musica assordante e l'animatrice che fa ballare le nonne? No, abbiamo anche la zona lettura, abbiamo anche la zona biliardo, la zona relax, un centro benessere. Questo mi tranquillizza spiaggia. Molto. E abbiamo differenziato proprio gli accessi, perché addirittura dall'anno scorso siamo anche una delle prime Bau Beach con l'accoglienza per i cagnolini. La Bau Beach? Si chiama così? Una zona, diciamo, una zona allestita perché ci sono dei proprietari di cani per i quali... Se ci fosse Andrea Piana, il nostro autore, in questo momento sarebbe brodo di giuggiole, perché sì, lui è fissato con questa cosa degli animali sulle spiagge. In effetti è giusto che animali possa portarseli sulla spiaggia. Da voi si può fare anche questo. Quante cose si possono fare all'Alta Marea Beach Village di Cattolica? Grazie Daniela Bartoli per essere stata con noi. Magari ci risentiamo, vediamo certo, se siamo qua. Noi siamo sempre pronti sul fronte dello spettacolo, dell'intrattenimento. Però Daniela, la prossima volta devi andare proprio sotto gli ombrelloni a chiedere verso le 5:30, 6, che poi alle 7 facciamo il collegamento, vedere i giornali, se ci sono giornali, libri, che libri leggono, i titoli, gli argomenti di discussione, ti metti lì ad ascoltare. Te lo posso dire? Vuoi sentire un titolo che sì, va molto? Sì? Chiara Gamberale, per 10 minuti. Perfetto, tra l'altro lei ha lavorato anche a Radio 24, siamo felici. Grazie, sì, alla prossima. Buona Daniela. Buona serata. Ciao, buona serata, Borsa. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, 800 24 00 24. Riprendiamo a sentire un po' di ascoltatori. Abbiamo Oliviero che ci chiama da Milano. Buonasera. Buonasera. Io ho sentito sia il caso Tavecchio, sia anche l'argomento di cui avete parlato sugli sprechi, le lampadine, eccetera, eccetera. Sì. Ma allora, premesso che io sono uno di quegli italiani ormai, ho 65 anni, ho finito la mia attività lavorativa, sono uno di quegli italiani incazzati, disgustati, amareggiati, non so cosa dire di più della situazione italiana. Io credo che la Repubblica delle Banane sia qua in Italia, cioè noi siamo una Repubblica delle Banane. Basti pensare, guardi, sto leggendo un libro bellissimo in questo periodo, Se muore il Sud, fatto da Rizzo e Stella. Questo libro racconta ogni pagina uno scandalo del Sud. Io penso che se la gente ci vorrebbe un'enciclopedia più che un libro, la gente dedicasse il tempo e si indignasse, come nel caso Taveggia giustamente, ma dedicasse il tempo a una pagina al giorno di quel libro, a indignarsi. Oppure Oliviero, anziché dedicare il tempo a indignarsi, dedicare il tempo a fare quello che diceva Jacopo Fo, cioè a rimboccarsi le maniche, a studiare e a realizzare cose concrete che funzionano, il caso delle lampadine per esempio, ecco, però, è vero, partiamo dalle città piccole e poi arriviamo anche a Milano, però lì c'è gente che ha rubato milioni e milioni sulla pelle. Questo lo sappiamo, ma che dobbiamo allora, fare? Secondo me più che indignarsi dedicare è lei che ha parlato di indignazione, mi scusi, volevo solo terminare. Secondo me bisognerebbe, o perlomeno dedicare lo stesso tempo a leggere il libro di Rizzo e Stella, a queste situazioni qua che rubano nelle tasche degli italiani. Perché sono a favore della conoscenza sempre e comunque, quindi mi unisco al suo appello a leggere il libro di Rizzo e Stella. E dell'indagine. Grazie Oliviero, grazie, buona serata. Grazie. Va bene, io ho aspettato 3/4 d'ora. Lo so, Oliviero, però lei mi liquida. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare qua io e lei tutta la sera. Cosa voleva aggiunga. Ho aspettato 3/4 d'ora. Ho capito, ma questo agli ascoltatori non interessa. All'orecchio. Sì, cosa vuole aggiungere? Aggiunga, Oliviero. Se lei mi fa fretta, io finisco qua. Non volevo aggiungere altro. Allora, arrivederci, buona serata. Arrivederci. Simone da Genova. Buonasera a tutti. Io in tema recuperi, rifiuti e quant'altro, come stavate affrontando prima con il giornalista, se ho capito bene, del Fatto Quotidiano. No, lui è Jacopo Fo, il figlio di Dario Fo, è un attore, è uno scrittore, c'ha un blog sul Fatto Quotidiano. No, avevo sentito solo il discorso, ma volevo parlare di un paradosso in Italia. In Italia c'è un grandissimo paradosso. L'Unione Europea ci dice di recuperare quanto più possibile, avviare meno rifiuti in discarica e quant'altro. Noi in Italia ci muoviamo nella direzione opposta. La cenere di un camino o da combustione da biomassa in tutti i paesi dell'Unione Europea può essere utilizzato come amendante in agricoltura, in Italia casualmente non può essere utilizzato. È quello che diceva esattamente, purtroppo, Jacopo Fo. Il verde pubblico uguale, un ramo di pino che viene da un centro urbano è verde pubblico, non può essere portato a combustione, non può produrre elettricità. Il comune deve pagare una discarica per lo smaltimento del verde pubblico, quindi vogliamo chiederci se ci sono interessi dietro tutte queste discariche che remano in direzioni diverse dal recupero dei rifiuti. Ma certo che ci sono interessi, certo che ci sono interessi, Simone, bisogna creare, ci sono già degli interessi che vadano in un'altra direzione, nella direzione degli interessi generali e degli interessi del risparmio, per esempio per le tasche del cittadino, e quindi in altre direzioni. ha capito, altri interessi in altre direzioni. Le commissioni che lavorano ai decreti legge, giusto. E quant'altro, perché queste commissioni lavorano in delle direzioni, poi si arriva momenti prima della stesura del testo definitivo, scompaiono righe, vengono aggiunte righe, queste leggi diventano una schifezza e il vero significato cambia totalmente rispetto a quello che dovrebbe essere, e alla fine gli interessi sono sempre dei pochi. Va bene, grazie mille anche a Simone. Sentiamo Alessandro da Milano, buonasera. Buonasera, a proposito del futuro, beh, per quanto riguarda Milano abbiamo già sicuramente tutte le vie d'acqua, basta aspettare che piova, che tutti i marciapiedi rifatti recentemente non hanno dato nessuna pendenza alle acque, come qui dove abito io, e i marciapiedi sono proprio dei canaletti navigabili. Discorso Tavecchio, ma io volevo solo dire due cose molto veloci, premesso per la frase assolutamente fuori luogo, inopportuno, per il quale lui ha chiesto anche scusa. Io non ho capito però perché si debbano attaccare al discorso anagrafico. Sono due aspetti diversi. Un conto è la frase in quanto tale, ne ha dette anche il Negretto di famiglia, mi ricordo Berlusconi, Buffon ha citato l'acquisto del diploma. Questo è un discorso è dire dobbiamo buttarlo a mare perché è vecchio. Ma com'è vecchio? Allora cosa facciamo di Napolitano, della regina Elisabetta o del Papa? È un discorso campato completamente per aria, non ha senso. Però mi scusi prego. Alessandro, cioè, un conto è un ruolo. Come può essere il capo dello Stato, tra l'altro non è scritto da nessuna parte che debba avere 80 anni, avere più di 50 ma non 80, o il Papa, dove ci sono comunque delle tradizioni che portano ad unire saggezza e quindi età al ruolo. Non è scritto da nessuna parte che per gestire invece un organo come quello del calcio bisogna avere più di una certa età. Chi l'ha detto? Forse è il contrario. A 71 anni quello è un lavoro, è un'età dove si dovrebbe andare in pensione, le persone normali vanno in pensione, quindi siccome è giusto anche porsi il problema anagrafico con rispetto delle persone, con intelligenza, ma non deve essere un tabù né in un senso né nell'altro, capito? Appunto, però la maggior parte di quelli che però se uno che c'ha 71 anni poi esordisce sparando quella cazzata su, scusate l'espressione, sulle banane, allora sono già due cose che si sommano, capito? No, si è messo male. Non si può strumentalizzare una frase, perché quelli che stanno facendo questo discorso si nascondono dietro a questo alibi. Non c'è nessuna proposta alternativa. Cosa vuol dire non c'è nessuna proposta? Non c'è niente, perché lui ha parlato, ha messo giù un programma, almeno io non sono un grande intenditore, ma l'ho sentito. No, lui ha sbagliato, al di là del suo programma, che poi uno può condividere, ha sbagliato a dire quella frase lì. E in America, per una frase analoga, il patron dei Clippers, una squadra di basket dei Los Angeles, è stato radiato dall'NBA per sempre. Possiamo vederla come vogliamo, ma altrove nel mondo è questo quello che succede. Ma nell'America poi viene riammesso anche. Ma chi l'ha detto, Alessandro? Chi l'ha detto, ma che riammesso? Quello là sta fuori, punto e basta, in America non transigono, ha capito? Poi America, uno può essere contrario, ma questo è quello che succede. Certo, ma in America lei fa il paragone in America su un argomento, lo possiamo fare allora su tanti altri. E facciamolo, perché facciamolo, no? Io l'ho fatto su questo, lei che ne pensa? Di che cosa? Di quello che hanno fatto lì. Dove? Di quello che l'ho appena detto. In America? Che per una frase del genere, che è razzista e non c'è niente da fare, gli è scappata male, l'hanno radiato. Sì, però non ha chiesto scusa quello là, ed è molto diverso. Questo ha chiesto. Va bene, scusa, va bene, frase, ci sono le scuse. È molto ci sono le meno scuse. Grave. Discutiamo molto... allora delle scuse. Va no, bene. Per me è molto meno grave di quella americana, questa. Va bene, può darsi. Però che bisogna essere. Ha buttato giù Alessandro? Ah, così. Prima ha lottato con me, poi si è defilato, ha avuto un momento, forse è arrivata la moglie, lo ha sorpreso col telefono, ha detto cosa fai ancora a chiamare a Radio 24? Giuseppina da Modena, buonasera. Buonasera a lei. Io mi ricollego a quello che diceva poco fa sull'importanza dello studio per le donne. Sì, importantissimo. Sì. Io sono una mamma di una ragazza di 16 anni, mia figlia studia. Sì. Io ho studiato. È molto molto importante, perché permette la conoscenza, permette la riflessione, il libero pensiero. Sì. E anche io non sapevo questo fatto che in America alcune ragazze, alcune giovani Sì, è una campagna, lanciata su Twitter, uno strumento utilizzato da tutti i ragazzi, sì, di tutto il mondo, che è Women Against Feminism, cioè le donne contro il femminismo. Lei ha colto perfettamente questa questione. Noi avevamo proposto come hashtag alternativo: ragazzi, studiate, cioè, ecco, cercate di sapere le cose e poi dopo esprimete i vostri giudizi. Perché, sì, di fondo il punto è che è vero che le donne non devono essere contro gli uomini, forse, come dicono queste ragazze un po' ingenuamente, però è vero che di fatto le donne non hanno spesso gli stessi trattamenti, diciamo così, degli uomini nel mondo del lavoro, fanno meno carriera, lavorano di meno, spesso con stipendi più bassi, l'abbiamo detto mille volte. Allora far finta di non oppure non voler vedere questa realtà è sbagliato, bisogna capirla, e quindi per quello. Esatto, anche perché sicuramente uomo e donna siamo uguali, perché abbiamo un cervello, abbiamo un cuore, poi chiaramente siamo maschio e femmina e quindi siamo diversi. Brava, scriva una frase lei. Quanti anni ha Giuseppina? Io ne ho 49. Lei è su Twitter? Mio marito. Ecco, la dica a suo marito su Twitter di scrivere un tweet con l'hashtag ragazzi studiate, e anche con quello di si può fare, così cominciamo ad aprire la catena. Se ora controllo. Se mi permette, volevo aggiungere una cosa. Ho telefonato anche per dire questo. Lei parlava del delitto d'onore che in Italia è stato in vigore fino agli anni Ottanta. Io volevo ricordare una donna, Franca Viola, io sono siciliana, una donna, Franca Viola, che negli anni 50 seppe dire no al matrimonio riparatore. Non so se lei conosce. Come no? Ecco, e viveva ad Alcamo. Grazie alla sua famiglia, ha avuto il supporto della famiglia, seppe dire no a un giovane, diciamo, fumantino, per così dire, che la rapì, e lei non volle accettare questo matrimonio riparatore. Quindi una dignità grandissima. Forse lo studio può insegnare alle ragazze ad avere la dignità. Va bene, grazie Giuseppina. Buonasera. Mi raccomando, faccia twittare suo marito con l'hashtag ragazzi studiate, che abbiamo proposto noi, e così vediamo poi di lanciare. Io stavo controllando se qualcuno aveva twittato su questo. Redazione, mi raccomando, occhi aperti, perché lo dobbiamo rilanciare subito. Apriamo una discussione su questo. Andiamo con Daniele da Fermo. Ciao Alessio, buonasera. Ciao Daniele, buonasera. Buonasera, allora una cosa volevo dire. Questo piagnisveo della pioggia, no? Questa cosa che piove, no? Questi bagnini, no? Quanto guadagnano? Quando c'è il caldo, quelle estati calde, luglio caldo, giugno caldo, e loro guadagnano. Ma cosa, non è che chiamano a noi, capito? Dio, guarda che adesso guadagniamo troppo, venite qua. Adesso se piove, piove ragazzi, piove, capito? Cioè lei invita così un po' di realismo, di pragmatismo e di... A questi bagnini voglio dire che quando loro guadagnano, oppure i prezzi, cose che mettono loro, sai che i prezzi che mettono loro, no? Da un euro un gelato a tre euro, tu vai lì un caffè, due euro, tre euro, capito? Io queste cose, questi con tre mesi, no? Vogliono guadagnare per un anno, che io lavoro 11 ore al giorno, tutti i giorni, capito? Artigiano, pago le tasse, mentre lì le tasse non si sa quando guadagnano questi. No, vabbè, questo perché dobbiamo così adombrare che non paghino le tasse? A piangere per loro, non posso piangere per loro. Però Daniele, non sia così, come dire, cioè... Così... io queste cose, cioè questi piagnisvei all'italiana, no? Che quando guadagnano tutto il posto, quando invece non guadagnano, questi si lamentano, come quelli sulla neve. Ma non è un piagnisteo all'italiano, no? Si lamentano solo del fatto che piove, la gente non va al mare, fra l'altro dispiace a tutti. Se piove, ragazzi. È felice quando piove? Sì, sono felice quando piove. Cioè si mette sotto l'acqua e allarga le braccia. Io lavoro al caldo, siccome che lavoro... Che lavoro fa? Io faccio le scarpe. Fa le scarpe? Ho un automatificio. Cioè, ma lei produce scarpe sue? No, o è un dipendente? No, sono un terzista per una grande ditta. Sono un artigiano. Ah, quindi lei, diciamo, produce pezzi forse di scarpe all'interno di una catena più grande di produzione? Perché una grande ditta qui, cioè nella zona. Perché siamo nel distretto anche delle scarpe lì dalle parti sue. Fermo. Esatto. Però capito, questo piagnisteo della pioggia, ragazzi, se piove, no? Piove, farà bello agosto, no? Farà bello settembre, farà bello ottobre, ragazzi, che vogliamo fare? Io questo, capito, non... Insomma, lei non riesce ad avere un minimo di solidarietà nei confronti dei bagnini? No, con questi no. Ma ha avuto una brutta esperienza in qualche stabilimento balneare? Cosa le hanno fatto? No, però siccome li vedo, capito, che questi quando che finisce la stagione, a ottobre, novembre, vanno tutti alle Maldive, capito? Spesso, molti, vanno, capito, a fare vacanze fuori, capito? cioè quello che hanno guadagnato con tre mesi, questi, capito? Dopo vanno, certo, vanno tutti, pagano uno stabilimento magari un sacco di soldi, oh, capito? Ma io, ma tre mesi, quanto può guadagnare una persona? Quanto? Che devo fare, cioè, questa devo lavorare 12 mesi e poi... È così, capito? Senta, Daniele, a questo punto la domanda gliela faccio. È diritto. Come va il mercato delle scarpe? Ma io posso dire, guarda, che cioè, io, ditta che lavoro io, posso dire che è una buona ditta e che lavora. Una zona lavora. Però certo c'è crisi, non è che non c'è crisi, La crisi c'è, però capito, non posso dire che questa ditta qui. Vabbè, le cose, insomma, si difende, le cose vanno abbastanza bene per lei. In bocca al lupo, grazie mille, grazie. Daniele. Vabbè, andiamo con... No, mi fa ridere questo ascoltatore che proprio non ce la fa essere solidale con i bagnini, ma anche con i bagnanti, che piove. Dice, arrangiatevi, quando poi c'è il sole, tanto meglio. Claudio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Mi riferivo un attimo, cioè, mi dispiace perché ho seguito poco, sono in macchina e ho seguito poco. Mi riferivo all'hashtag che tu hai detto, i ragazzi sì. studiate, eccetera, sì. no? Ricollegandomi a una vostra chiamata di un ascoltatore che faceva riferimento a Napolitano, altra gente. Sì. Cioè io voglio dire, ma questi ragazzi qua cosa devono studiare? Studiano, fanno quello che devono fare, ma poi non vengono considerati. Ci rendiamo conto che siamo in Italia, che il nostro presidente della Repubblica ha 80 anni, 85, non lo so. Cosa c'entra questo con lo studio? Con lo studio, scusi? Com'è? Cosa c'entra l'età di Napolitano con lo studio? Mi sono perso un no, passaggio. No, c'entra, perché bisogna dare, soprattutto in questo paese, ma forse è venuto il momento, rispetto agli altri paesi europei, di dare spazio ai giovani, alla mente giovane, di sì. andare avanti, di creare, di avere delle nuove idee, di vivere, di creare nuove situazioni, perché secondo me è un paese, stiamo vivendo un paese dove è sfiduciato, nessuno ha più voglia di fare niente, lo Stato non ti dà garanzie e si va avanti così, no? Solamente bisogna dare la possibilità ai giovani di creare una nuova democrazia per andare avanti. I giovani hanno delle idee nuove e riescono ad andare avanti senza interessi, senza rubare a destra e a sinistra, mettendosi insieme. Questo è il discorso che voglio dire io. Va perché bene, secondo me... Sì, prego, concluda. Sì, sembrerò un pazzo, che cosa, però in questa Italia qua oramai siamo veramente allo sfracello totale. Si sente adesso parlare, va bene, c'è Renzino che comanda qui e là, la democrazia. Sono fermi al Senato per sto decreto legge del quinto emendamento delle regioni, qui abolire il Senato. Ma oramai ci rendiamo conto che la gente sta veramente alla frutta totale. Cioè siamo tartassati di tasse. Va bene, va bene, questo lo sappiamo purtroppo. Sì, che dire. Bene, no, okay, ma non è demagogia. No, no, non è demagogia, no, però ce lo siamo detti già tante volte, quindi adesso cerchiamo anche di ogni tanto di parlare di qualcos'altro. Allora, sentiamo Luciano dalla provincia di Lucca. Ciao Alessio. Buonasera. Buonasera, allora, intanto non sono logicamente d'accordo con quello di Fermo che fa le scarpe e se le faccia per conto suo. Io sono al mare e quindi sono solitario. Sei arrabbiato? Perché... Com'è il tempo lì? Ora è leggermente nuvoloso, oggi sarà una buona giornata, ma le previsioni danno domani l'altro acqua. Va bene, prenderemo anche l'acqua. La stagione comunque non è andata un granché bene perché è più... Però ecco, sono d'accordo, questa acrimonia, adesso prima non mi viene la parola. Quello lì che lavora 11 ore, gli volevo fare la domanda, se anche lui ha tanti extracomunitari, se magari li paga regolare o li paga sotto banco, perché nei tomaifici sono quasi tutti stranieri a lavorare. Bene, Fermo, lavorerà per Della Valle in quella zona lì, comunque. Può darsi. Va bene, comunque voglio dire, tornando al discorso da vecchio, sono un po' d'accordo, un po' meno. Sull'età non tanto d'accordo, perché io, pur avendo preferito Albertini a lui, io sono uno sportivo ancora praticante, sì. 74 anni gioco a pallone amatoriale, a 11, amico di Marcello, tanto a Viareggio tutti siamo amici di Marcello. Vabbè, ascolta, te lo dico, da vecchio è ignorante già come cultura, perché io penso che insomma se lui ha preso un diploma non so come l'abbia preso, aveva già fatto un discorso precedente un po' ignorante, però l'età... Lì io prima Albertini avrei preferito Gianni Rivera. C'ha un'età come vecchio, 71 anni, però una cultura diversa, un'esperienza molto importante, che per qualche anno forse avrebbe fatto meglio di Albertini, che lo vedo un pochino timido in questo destreggiarsi, perché è un mondo di lupi, mannari, è il calcio. Sì. Quindi è diretto male fino ad ora e fanno i loro interessi, infatti ci vuole uno che forse rivelano, infatti non lo vogliono, perché forse è uno dei pochi che potrebbe mettere abbastanza a posto le cose, abbastanza. Esperto in politica, beh, ma cioè, esperto di calcio soprattutto. Questo è un discorso. Per quanto riguarda poi il discorso del razzismo, lui ha sbagliato in totale, perché non sono razzista, pur essendo non molto favorevole a questa globalizzazione e invasione enorme, perché è un'invasione enorme. Dico solo una piccola frase che sto dicendo da tempo. Noi siamo oramai una civiltà che forse ha dato troppo, e quindi io dico, mi paragono ai Maya, siamo in estinzione, quando questi hanno detto siamo alla frutta, le tasse, tutto si sta scomparendo, questi qui che vengono hanno una linfa più forte, una prepotenza, si fanno largo, e noi, io dico, nei 20-30 anni gli italiani particolarmente che sono i più ospitali, ma l'Occidente in generale prenderà una spallata dall'Islam, perché l'Islam è vincente, quello che diceva Maometto. Sì, Luciano, io la sto facendo parlare, però lei si è presa un po' troppo in largo, cioè le ho dato un dito, lei si è preso il braccio, tutto, dove, fin dove vuole arrivare? Teorie. Ho fatto 2 anni rappresentante, quindi c'ho la parola sciolta. Senta, ma mi torni un attimo sulla questione spiagge, lei va al mare in Versilia? Sì, Diamine. Diamine, ed è amico di Marcello, lo conoscono tutti, Lippi diceva, no? Ma tutti, è amico di tutti. Sai, ma Lippi adesso dov'è? È in Italia o all'estero? In Cina. È sempre in Cina. Sì. Quindi lo vedete poco? Sì, è stato qui un mese fa quando c'erano mondiali, perché c'è stata una sosta. Chissà cosa ne penserebbe lui della vicenda qua della Federcalcio. Lui penso che non appoggerebbe Tavecchio. Io sono sicuro, non appoggerebbe più Demetrio, Albertini, e non so se Rivera. Però per me Rivera è una persona, questo sarebbe stata la persona giusta. Forse qualche anno fa, secondo me, non lo so. Sì, adesso può darsi ancora. Anno sarebbe sì. stato meglio, sono d'accordo con lei. Comunque l'età, ecco, dicevo, bisogna vedere anche come uno ci arriva, insomma, ecco, io ora mi tocco ferro, perché la gente mi dice è un miracolato, come le sto dicendo, io sto ancora giocando a pallone a 11, ho 74 anni. A 74 anni? Sì signore, sono del 40, 31 maggio 1940. Ah, me l'ero perso che l'età, me l'aveva detta prima, avevo capito, forse 74 anni, e lei gioca a calcio a 11 ancora? A calcio a 11 a livello amatoriale, Wisp. Mi dice che dieta fa per arrivare a 74 niente, anni quasi. Così. Allora, non fumo, non bevo e... No, il resto non me lo dica, perché ho smesso anche il resto. No, questo perché non faceva male, però questo. No, per una questione mia, ma comunque va bene così. Però non fumo e non bevo, non ho mai fumato e non ho mai bevuto in vita mia. Però ho avuto anche un'infanzia particolare, se non si fa un romanzo, vabbè, lasciamo perdere. E diciamo che toccando. E che ruolo gioca Luciano? Gioco difensore, pur essendo abbastanza piccolo. Top e terzino, ora gioco un po' più a centrocampo, perché non posso certo fare quello che facevo a 20 anni. No, credo di no. Ho giocato a pallone anche con Marcello a livello amatoriale, perché quando viene qui si diletta a fare con gli amici un po' qualcosa. Lippi avrà qualche anno meno di lei, ma non molti, credo. È del 48. Quindi ad 8 anni meno di me, a 4 mia moglie. Sì, che ha 8 anni meno di me, sì. Siamo già oramai sugli anta, però se uno ci arriva bene, non ha acciacchi. Io toccando ferro non mi sono mai fatto male in tutti questi anni di attività, sai, quando mi c'è il ginocchio, invece niente, fortunatamente. Beato lei, fortunato, ma anche bravo, se l'ha meritato. Luciano, grazie. Comunque, sì. Complimenti per la trasmissione, non prendevo perché non avevo mai capito un po' il numero. Per esempio, io sono qui. Arretrato, cioè non aveva capito il numero che bisogna fare per telefonare. Cercavo e poi non lo memorizzavo, perché magari pensa altre cose. Oggi l'ho preso e ho detto, via, sentiamo Tavecchio. Comunque Tavecchio è uno. Tempo fa gli hanno fatto una domanda e gli ha detto e lui ha detto, guardi, per dire che è un po' ignorante, la sfido su 100 metri perché arriva prima, allora lo sfido io che ho 74 anni, gli do 30 metri su 100 metri. Ma questo non è un discorso che non vale a nulla, no, ci vuole il cervello, capito? E con questa massima di Luciano ci salutiamo. Buonasera, andiamo con Giovanni che ci chiama da Padova. Sì, salve, buonasera. Io, al contrario del signore che era poco fa al telefono, sono un ex arbitro, quindi diciamo che lui gioca e io arbitravo. Quindi io sono sinceramente molto deluso da questo pseudo rinnovamento che hanno intenzione di fare, perché trovo che sia sbagliato non dare la voce principale agli attori. Gli attori sono i giocatori e eventualmente anche gli arbitri. Io, per carità, vi ho detto che sono un ex arbitro FIGC, adesso per carità sono fuori dai ruoli perché ho superato i 45, ho fatto per altri 6-7 anni parte dell'AIA dal punto di vista dirigenziale, poi insomma ho deciso un attimino di battere altre strade, adesso faccio ancora calcio amatoriale a livello CSI, Però, ripeto, tornando al problema Tavecchio. Ecco, sì, dopo averci fatto la sua biografia su cosa vuoi dire. Tornando al problema Tavecchio, sì. Il problema Tavecchio fondamentalmente è una persona anziana, ma non vuol mica dire, l'importante è che ci siano delle idee valide, ma le idee valide li possono avere i giocatori, li possono avere, ecco, un Gianni Rivera, ma Gianni Rivera è stato un giocatore, adesso non voglio mica dire che Tavecchio, perché non è stato un giocatore, non possa avere delle idee valide, ma è un personaggio. Però vede, mi scusi e poi la faccio continuare, continuiamo a dire, no, ma non è che l'età non deve essere dirimente, però certo, uno che ha 70 anni, magari un calciatore potrebbe essere meglio, però non è che uno che non ha fatto il calciatore, cioè che Tavecchio non ce n'ha una, ha 70 anni, dovrebbe andare in pensione, non ha mai giocato a calcio e quindi non ha neanche quella carta lì, è uno che quando parla in pubblico dice cavolate come quella del mangiare banane, perché dobbiamo prendercelo a Federcalcio? Questa è la domanda. No, ma io l'ho conosciuto anche punto. Personalmente, ci ho anche parlato, per carità, una persona con cui sicuramente si può anche dialogare, cioè non sto mica dicendo che sia un despota o altro, assolutissimamente, perché noi ci dimentichiamo, forse magari i più giovani sicuramente non se lo ricordano, ma noi abbiamo avuto negli anni 70, 60, 70 un certo Artemio Franchi, che è stato anche oltre presidente anche dell'UEFA, okay. Ma era una persona che aveva 74-75 anni, sì, ho capito, ma aveva fatto tutta la trafila ed era comunque, veniva dalla base, perché aveva fatto anche lui giocatore, poi era stato dirigente, tutto, ho capito, quindi non stiamo parlando dell'età di Tavecchio, stiamo parlando delle idee, e le idee, ripeto, le può avere una persona di 70-75 anni come le può avere uno di 40-45. Va bene, 30, va bene, 42. Questo l'abbiamo già detto, grazie mille anche a lei, buona serata, facciamo una piccola pausa. Si può fare l'attualità anche d'estate. E allora 800 24 00 24, ancora con i vostri interventi, cari ascoltatori. Tra un attimo c'è saltato un ospite, abbiamo sbagliato il numero, forse non è, se, insomma, è sparito. Tra poco sentiremo il nostro premio Nobel per l'ambiente, Rossano Ercolini, uno a cui ci aspettiamo molto. Non tutte le sere, ma un paio di volte a settimana lo sentiremo. Adesso forse sentiamo i titoli della 7, tra poco, tra un attimo. Cominciamo, riprendiamo con gli ascoltatori. Mauro da Frosinone. Buonasera. Aspetti, pronto? Titoli. Anzi, no, c'è il preambolo di Mentana. Sentiamo. Nella... è peggiore dopo 3 settimane di guerra tra Israele e Hamas su Gaza. Ci sono stati numerosi morti e ci sono stati almeno 2 episodi su cui le parti in causa si rimpallano le responsabilità. Da un lato Hamas accusa Israele di aver colpito in 2 diverse situazioni bambini che stavano giocando. Ci sono 8 minori che sono rimasti uccisi. Secondo Israele, che dice di poter provare quanto afferma, è stato Hamas con un lancio di razzi che, contro la volontà evidentemente dei guerriglieri palestinesi, è andato a toccare proprio una parte del territorio di Gaza. Lancio di razzi che ha colpito il territorio israeliano questa volta. Questo è Mentana, adesso sentiamo i titoli del TG1. Gaza, strage di bambini, scambio di accuse tra Israele e Hamas, Obama e l'Europa intensificare gli sforzi per il cessate il fuoco. Renzi e senatori della maggioranza, da voi dipende il futuro dell'Italia, dal premier aperture a modifiche sulla legge elettorale. Da domani la maratona sul nuovo Senato, Beppe Grillo a Roma incontra i parlamentari 5 Stelle, faremo guerriglia democratica. Aprilia uccisi dalle esalazioni, 2 operai muoiono in un impianto di compostaggio, il cordoglio del presidente napoletano. Ucciso per sbaglio durante una sparatoria a Portici nel Napoletano, vittima un pensionato di 75 anni, in mano le buste della spesa. Caso Tavecchio, la FIFA chiede spiegazioni su frasi sui giocatori extracomunitari, lui dice non ritiro la candidatura alla Federcalcio. One Direction in anteprima al TG1, il trailer del film concerto che la band ha registrato durante le date, da tutto esaurito allo stadio San Siro a Milano a fine giugno. Ok, tra poco forse sentiamo anche la 7 dopo che Mentana ha finito di fare il suo pistolotto precedente ai titoli. In regia ridono, ma è di vero e proprio pistolotto, si tratta ogni sera. Credo che, insomma, non è offensivo, no? Anche per gli ammiratori di Mentana, e sono molti, giustamente. Mauro da Frosinone, però, avevamo in linea. Sì, pronto, eccolo. Buonasera. Prego, tocca a lei. Mi sente? Forte e chiaro. Bene. Niente, io volevo riferire a quell'ascoltatore che parlava del libro di Stella sugli scandali. Sì. E io mi è venuta una riflessione abbastanza amara, nel senso che mi sembra che noi siamo stati trasformati da cittadini in sudditi. Noi non abbiamo più un'opinione pubblica, o meglio, l'opinione pubblica non ha più voce. Non abbiamo nessuno strumento. Lei prima, rispondendo a quell'ascoltatore, ha detto forse occorre che la gente studiasse le cose, le capisse bene. Io non faccio altro che fare questo e ogni volta mi sento più impotente, nel senso che pur avendo studiato, essendo una persona, diciamo, tra virgolette, di cultura, io faccio il chirurgo come lavoro, però mi sento assolutamente impotente. Le faccio un esempio stupido, banale: percorro una strada tutti i giorni dove un guardrail si è rotto, sono arrivati i camion, hanno messo strisce gialle, 25.000 segnali. Però nessuno lo aggiusta. Spendevano meno a sistemare il guardrail. E noi, davanti a queste cose, parlo di questa cosa piccola, sì, ma le opere incompiute, tante altre cose, noi ormai non ci ascolta nessuno, non siamo più cittadini, non abbiamo più voce, siamo sudditi. Io volevo esprimere esclusivamente questa cosa in modo sintetico. Grazie per avermi dato l'opportunità. Grazie Mauro. Che dire, la sua così amarezza, mestizia sul fatto che siamo sudditi, noi l'abbiamo accolta, però mi sembra francamente un po' troppo amara. Siamo su. L'esempio che lei ha fatto è molto interessante, quello del guardrail, che invece di aggiustarlo mettono i segnali per indicare che è rotto. Ed è un po' emblematica di tante cose che accadono e non accadono in Italia, dove si discute dei problemi ma nessuno si mette a risolverli. Però di lì a dire che siamo sudditi, secondo me lei un po' esagerato. Cosa sono i titoli? La 7? Ce l'hanno fatta alle 8 e 3 minuti, sentiamo. Dopo una notte di pausa sono ripresi i bombardamenti. Hamas rompe il cessate il fuoco con il lancio di razzi sul territorio israeliano. 4 coloni hanno perso la vita, uccisi 5 membri di Hamas infiltrati in un kibbutz del Negev attraverso un tunnel. A Gaza colpiti un ospedale e un campo profughi, 12 le vittime, 7 bambini. Hamas accusa Israele che si difende, noi non c'entriamo, erano missili dei terroristi. Nell'Ucraina dell'Est la situazione è difficilissima, più di 1.100 morti all'inizio del conflitto, a denunciarlo un rapporto dell'ONU. In questo contesto è impossibile per gli esperti ispezionare la zona dove è precipitato il Boeing della Malaysia Airlines. Scambio di accuse tra Stati Uniti e Russia con la richiesta da parte di Washington di porre fine al flusso di armi e missili a favore dei ribelli separatisti. Il conflitto israelo-palestinese, la situazione ucraina, i nuovi focolai di guerra in Libia, dove sta succedendo anche qualcosa di molto grave per l'incendio di una raffineria al centro della conference call tra Obama, Merkel, Hollande, Cameron e Renzi. Dai leader un appello per il cessato il fuoco a Gaza, dove si spiega il peggioramento della situazione fa solo il gioco degli estremisti. Se da una parte sono tutti d'accordo a continuare il dialogo con Mosca, dall'altra c'è la comune volontà di infliggere nuove sanzioni nei confronti della Russia per la questione ucraina. Lettera di Renzi ai senatori della maggioranza alla vigilia del tour de force decisivo per la riforma del Senato. C'è chi vuole bloccare tutto e chi vuole cambiare, scrive il Premier. Dalla vostra capacità di tenuta dipende il futuro dell'Italia. Renzi apre su preferenze il nodo della riforma della legge elettorale. Ora si potrebbe sbloccare il muro contro muro sulla riforma del Senato. Domani il Premier forse incontrerà Berlusconi, forse perché è indisposto. Faremo guerriglie democratiche. Beppe Grillo annuncia la strategia del Movimento 5 Stelle contro la riforma del Senato. Parola alla piazza per spiegare le ragioni della protesta. Deputati e senatori scenderanno in strada per manifestare il proprio dissenso. E questa è la decisione presa dall'Assemblea congiunta dei gruppi del Movimento dei parlamentari, convocato oggi dal leader a Roma. Vado avanti, ho l'appoggio delle leghe calcio, dalla A fino ai dilettanti. Carlo Tavecchio annuncia di non voler rinunciare alla candidatura per la presidenza della Federcalcio dopo la sua frase a sfondo razzista e di cui tanto si è parlato. Anche la Federazione Internazionale ha chiesto che si indaghi. Il fronte delle squadre di calcio di Serie A, inizialmente quasi tutte compatte con Tavecchio, inizia a avere le prime crepe, ma sono poche. E va bene, sono entrato sulla sigla di Rossano Ercolini, il nostro premio Nobel per l'ambiente alternativo 2013, uomo della strategia rifiuti zero in Italia e in Europa, infatti è presidente di Zero Waste Europe. Ben ritrovato Rossano. Sì, buona, buonasera a tutti. Buonasera. Eccoci qua. Io stavo intanto in realtà commentando il fatto che tra preambolo e titoli, quello di Mentana è già un telegiornalino, dura 7-8 minuti, e così ho bruciato la sigla. La sigla con cui ti introduciamo a Si può fare, sei l'uomo che ci racconta come e perché si possono e si devono ridurre i rifiuti in Italia. Sei un maestro, lo ricordo per chi non ti conosce, delle scuole elementari a Capannoli, da dove è partita una strategia per ridurre i rifiuti in Italia che si è rivelata vincente. Ti abbiamo strappato a un incontro col sindaco di Parma Pizzarotti. Tutto bene? Sì, sono ancora in ballo. Sto firmando i libri per il folto pubblico che è venuto. È stato un bellissimo incontro. Però... Tra l'altro scusami, e poi non ti voglio mettere in imbarazzo, quindi non te lo chiederò proprio adesso un giudizio sulle strategie, perché Pizzarotti sull'inceneritore si era giocato l'appoggio addirittura di Grillo e Casaleggio, perché non era riuscito a fermare l'inceneritore a Parma, però questo magari in un'altra puntata, visto che adesso sei ospite loro per parlare del tuo libro. Ogni sera, anzi due sere a settimana, ci racconterai cose inedite, curiosità sui rifiuti che ci riguardano e che non sono più rifiuti, ma tu inviti a pensarli come risorse, Rossano. Sì, io ho accettato con grande entusiasmo il vostro invito, naturalmente per quello che sarà possibile, però prenderemo in esame un rifiuto che può diventare invece una risorsa alla volta, parlando di una tipologia di scarto che in questo momento magari va a smaltimento, ma che potrebbe essere invece fonte di ricchezza oltre che di risparmio ecologico. Ecco, stasera hai deciso di parlarci di cosa? Stasera io, memore del successo, del anche dell'attenzione che ha creato nell'opinione pubblica il caso studio sulle capsule del caffè, vorrei parlarvi dei risultati che abbiamo raggiunto in questa ricerca e anche delle relazioni che abbiamo stabilito grazie al confronto che ne è scaturito. Vai. In particolar modo, io sono... tra i tanti compiti, forse quello che piace di più è quello di dirigere il centro di ricerca rifiuti zero del comune di Capannoli. In che cosa consiste questo mio compito? Ovviamente insieme ad un team di designer, di agronomi, di professori, di esperti di comunicazione e anche di semplici attivisti, andiamo a studiare che cosa c'è nel sacco grigio, in quel 20% che rimane dopo l'80% di raccolta differenziata. E in particolare ci siamo imbattuti in modo importante e rilevante con una presenza crescente delle cosiddette capsule del caffè, che ci siamo informati non hanno alternativa allo smaltimento. Le abbiamo studiate, abbiamo viste che sono costituite dal fondo del caffè, che è un ammendante tal quale preziosissimo, che viene chiamato l'oro nero, e poi da plastica, in genere polipropilene, cioè plastica di pregio, che attualmente non hanno alternativa allo smaltimento. Allora scrivemmo una lettera alla Vazza, da questa lettera è emerso un tavolo congiunto di lavoro, ma soprattutto sono emerse delle scoperte, dei brevetti che hanno sancito la possibilità di agire in modo alternativo. Cioè siamo già ai brevetti, Rossano, io l'altra volta mi ero fermato che stavate studiando la cosa, invece adesso con la lavazza siamo già ai brevetti, fantastico. No, non ancora. Forse la mia sintesi, la mia foga di essere sintetico. Cioè ti sei lasciato trasportare dall'entusiasmo. Diciamo che con i maggiori produttori del caffè stiamo lavorando a soluzioni che ancora hanno la necessità di un sigillo ministeriale, dei consorzi cosiddetti consorzi di filiera del Consorzio Nazionale dell'Imballaggio, in particolar modo il Corepla, che è quello della plastica. Ma nel frattempo la notizia più importante è che questo caso studio ha contribuito a liberare energie che hanno portato a chiedere incontri col nostro centro di ricerca, i quali ci hanno sottoposto almeno due brevetti di un certo interesse. Il primo della ecocapsula, cioè una capsula ricaricabile 300 volte, clone delle macchine Nespresso e Lavazza, che sono ampiamente diffuse, che quindi possono essere utilizzate su quelle macchine, Ma soprattutto perché le capsule ricaricabili sono certamente un punto d'arrivo importante, però secondo me perché c'è questo continuo aumento, per esempio nel 2013 il fatturato delle capsule del caffè, delle industrie produttrici delle capsule del caffè è aumentato di un ulteriore 16%, quindi sta veleggiando questa industria a dispetto della crisi. Perché? Perché dal mio modesto punto di vista, ovviamente ce ne sono tante di altre ragioni, negli uffici soprattutto si sono diffuse queste macchinette perché la pausa del caffè è molto breve e quindi il caffè monoporzionato, cioè praticamente già pronto, non hai il tempo di usare. È più veloce da poter fare. Ecco, è più veloce non solo perché c'è opportunismo, forse in famiglia questo può essere, ma il boom è soprattutto negli uffici. Allora, è venuto da noi un ingegnere che si chiama Giampaolo Belloli, esperto di imballaggio farmaceutico, che ha inventato una capsula compressa sul modello dell'aspirina, praticamente attraverso un bombardamento complesso ma ormai disponibile perché il fenomeno possa avvenire, compatta la polvere del caffè, per cui ha proposto un sistema che assomma tutti i vantaggi del monoporzionato, la compressa viene rivestita un po' come nell'ovino Kinder con una leggera pellicola di alluminio che viene separata prima che il caffè vada ad essere spremuto. Esattamente come con i medicinali, magari, con quei cosi che si... non so adesso... Viene facilmente separato l'alluminio dal fondo del caffè, quindi recuperando assolutamente quello che adesso va a smaltimento. La concretezza di questo tipo di brevetto sta nel fatto che si mantiene, come dicevo prima, il vantaggio del monoporzionato, cioè fai molto presto, ma nello stesso tempo puoi avviare in modo incisivo, senza che debba essere l'utente alla fine, perché qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, ma lo fa la macchinetta prima che venga spremuto il caffè, puoi avviare a compostaggio la polvere esausta e recuperi facilmente quel poco alluminio. Teniamo presente che ogni capsula, vengono prodotte in Italia 1 miliardo di capsule all'anno, 9 miliardi in tutto il mondo, per 1 chilogrammo di caffè in capsula sono necessari 4 litri di acqua e 2 litri di petrolio. In questo modo si ridurrebbe l'impatto ambientale di almeno l'80%. Quindi si può fare, come dite voi. Io sono estasiato ascoltando questa cosa, perché capite come si fa? Si parte dal problema, ci si mette in sordina al centro studio dei rifiuti di Capannori a studiare la cosa, si trovano delle persone di buona volontà e di discreta intelligenza che hanno trovato già la soluzione. Adesso aspettate qualche mese, qualche anno e vedrete che questo diventerà davvero un brevetto, e tra un po' le capsule del caffè cambieranno, perché bisogna risparmiare assolutamente. Credo che non faccia schifo a nessuno, tra l'altro, nemmeno ai produttori stessi, risparmiare forse qualcosa. Rossano, è stato fantastico questo primo nostro incontro. Va bene, grazie, e sono entusiasta ed emozionato di collaborare con voi. Buona prosecuzione. Grazie a te, buona prosecuzione invece di serata. Sentiamo le voci intorno a te, l'incontro con il sindaco di Parma Pizzarotti alla presentazione del libro di Rossano Ercolini, Non bruciamo il futuro. E questa sì che è una lettura che vi consigliamo a tutti per l'estate. Traffico. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, cari ascoltatori, riprendiamo anche a sentire i vostri interventi. Vai, andiamo con Giuseppe da Genova. Buonasera Alessio. Buonasera. Io volevo trattare l'argomento Tavecchio, ma spostando un po' l'orizzonte. Non so se ricordate, circa un mezzo fa, su Report ci fu un servizio su il mondo del calcio e fu intervistato da una brava giornalista della trasmissione Report, il Tavecchio, e già lì c'erano segnali evidenti di come questa persona è lì da 21 anni ed è in una posizione di privilegio, cioè non c'è rinnovamento, tra l'altro erano emersi chiaramente in report, tutto da accertare, diciamo anche l'aspetto, come dire, un po' di carta di questo mondo un po' chiuso. Non è certo un segnale così positivo, ma non per il cambiamento, per la voglia di cambiare, il cambiamento per rinnovare. Cioè, e per inciso, la Lega Calcio Dilettanti esiste solo in Italia, nel resto del mondo non esiste la Lega Calcio Dilettanti. Già questo credo che possa far riflettere. Poi sulla le qualità di Davecchio, credo che quel ruolo che deve essere anche un ruolo di rappresentanza e chiaramente di esempio, credo che non sia la persona adatta, a prescindere dall'età, insomma l'età anagrafica è relativa, anche se concordo con lei che a 71 anni probabilmente puoi lasciare spazio ad altri, ecco. Secondo me a 71 anni puoi fare tantissime cose, però puoi anche non avere un ruolo di primo piano operativo, dove è richiesta anche forse un'energia fisica che giustamente a quell'età non è detto che uno abbia. Non a caso a 71 anni si va anche in pensione nei lavori normali, e essere presidente della Federcalcio dovrebbe essere anche un lavoro come un altro, insomma. Poi non è che bisogna fare delle esenzioni come per il Papa. CONI, che l'organo supremo, dovrebbe intervenire su questa vicenda. Mi sembra che invece anche per il momento non è così. Per il momento non è così. Grazie mille, Marco. Sì. Grazie. Allora, intanto c'è un'ascoltatrice che su Twitter mi chiede di ripetere il titolo del libro del signore che stava parlando sulle capsule. Le capsule del caffè, era Rossano Ercolini, il titolo del suo libro è Non bruciamo il futuro, ma lo risentirete su, insomma, si può fare su Radio 24 almeno due volte, due sere a settimana. Raffaele da Pisa, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Ascoltavo la radio, non so se ho capito bene, volevo rispondere a quel signore che diciamo voleva provare il sistema di eliminare la plastica per quanto riguarda le capsule del caffè. Sì, è quello che stavamo dicendo adesso, esattamente. Si può benissimo bandirle e continuare a incentivare le cialde. Cioè, mi sembra talmente una cosa... No, non ho capito, scusi, bandirle o incentivarle? Cioè, levare le capsule di plastica. Sì. Cioè, bandirle, diciamo, mettere fuori legge, chiamiamolo come ci però parla. Sentite, è un mercato in crescita, più 13% certo. Lo scorso anno, quindi sì, andare vero. Contro un mercato tra l'altro di questi tempi, certo, d'accordo, non però, è meglio trovare una soluzione come stanno facendo questi ingegneri del centro studi Capannori? Io credo che sì, cioè, fa soltanto gli interessi delle lobby, ricerca, soldi, quando ma ci quale sono lobby, le cialde, scusi, quale lobby, scusi, è chiaro che se uno fa la macchinetta del caffè non inquina da quel punto di vista, ma se c'è un nuovo prodotto che si sta diffondendo sul mercato e che però questo come molti altri che può inquinare come prodotto, non è nuovo, sì, va bene, le capsule non sono nuovissime, ma non so, neanche 20 anni fa queste capsule non ce l'aveva nessuno. Vabbè, allora delle due sì. Allora ci sono nel commercio sia le capsule sia le cialde, delle due pubblicizziamo di più le cialde, non lo so, ecco. Ma che fastidio le dà se qualcuno trova un modo per fare le cialde compatibili? No, assolutamente, allora, nessun fastidio, va bene. Però mi sembra che sarebbe cosa quello sembra? Che si riferisce il signore, è una cialda compressa. Sì, ecco. E che problema c'ha lei con la cialda? No, non ho capito. Niente, assolutamente allora. Niente, io no, dicevo soltanto che è semplice. Bandire la plastica. Ma guardi, non è semplice bandire la plastica, non c'è riuscito nessuno, signora. Infatti, certo, il mondo è pieno di plastica, quindi dobbiamo trovare un modo per uscirne. Non è come dice lei. Ma per combatterla è quello di levarlo dal commercio e lasciare. Ma levarla dal commercio ci vogliono delle alternative, a meno che non leviamo le capsule che alla gente piacciono. Raffaele, alla gente, sì. Se ne faccio una ragione, le capsule certo. Il caffè piacciono, allora non si possono levarle come dice lei, magari io dice le levo, tutto quello che non mi piace lo levo, ma c'è un mercato, ci sono dei prodotti, sono legali, la gente li compra, come fa a levarli, scusi? Certo, ma è difficile che levarle. No, però è impossibile, bisogna trovare delle soluzioni ai problemi, non bisogna andare avanti, però se si può, è come... Riferiamoci per dire anche alle bottiglie di plastica, cioè, penso che si possano trovare altre alternative per le bottiglie di plastica, però si continua a produrre e non si fa niente perché le industrie sono talmente radicate nella politica o nel che impongono i loro prodotti. Sì, va bene. E questo è quello che succede. Dopodiché, se c'è qualcuno che studia delle soluzioni che mettono d'accordo le industrie e i consumatori con dei prodotti che inquinano di meno, non vedo dov'è il problema. Dovrebbe essere contento, invece ha trovato qualcosa da lamentarsi anche qua. Raffaele, non lo so. Tutto quel petrolio, tutto quell'inquinamento, sì, riferendomi alle cialde del caffè, cioè al caffè e le capsule, elevarle. Ma ha capito che col sistema di cui ci parlava prima Ercolini si riduce dell'80%, ma perché deve elevarle? Io non ho capito cosa. No, perché ci sono, cioè, è una cialda, cioè, secondo me è una cialda complessa, cioè è la solita cialda, ecco, né più né meno. Cioè, no, io non faccio le cialde del caffè oppure si vede, da quello che dice si vede, non ci ha capito molto Raffaele. No, mi dispiace dirglielo. Avrò sbagliato, però sì, mi sembra che per eliminare la plastica bisogna essere drastici e senza se e senza ma, cioè questo non va bene. Sì, ma quello che dice lei, non so più come dirglielo, non succede nella realtà. La plastica c'è nelle capsule, nelle bottiglie d'acqua, c'è da tutte le parti. Quindi quello che dice lei è un'utopia, è una sua personale o anche condivisa ambizione, ma condivisa da altri, che però non è reale, non so come dire. Intanto noi la ricerca possiamo mandarla sempre avanti e comunque e mandiamola avanti. Ma intanto blocchiamo il veleno, blocchiamo il male. Se trova il modo di bloccarlo ci chiami, perché noi siamo sicuramente dalla sua parte. No, io non faccio il mago, non faccio Dica delle cose così giusto per il gusto di dirle. No, perché? Assolutamente. Perché blocchiamo la plastica? Cosa vuol dire blocchiamo la plastica? È come dire blocchiamo il traffico, blocchiamo l'aria che respiriamo, blocchiamo la pioggia. No, per carità, ma no, mi sta travisando le mie parole, il mio pensiero. Forse. Non è questo. Io stavo ascoltando la radio, il quale dicevano che stavano studiando per bandire la plastica delle cialde del caffè, in riferimento alle cialde. Sì, che lo studio è prettamente rivolta alle cialde, alle capsule. Di conseguenza eliminiamo le capsule e abbiamo risolto il problema. Va bene Raffaele, lei continua a vederla così in maniera molto semplice e anche semplicistica, mi scusi, perché chi dovrebbe avere l'autorità di eliminare queste capsule? No, eliminare l'autorità, cioè non è che l'autorità arriva il generale e Se lei prende una decisione in casa sua, decide lei, no? Ma se parliamo delle capsule del caffè che sono in produzione e in vendita nei negozi di tutto il mondo, lei decide di abolirle. Chi si occupa di far rispettare questa regola? Io sono piccolo. Molto piccolo, perché troppo come tutti noi per poterlo fare. È arrivata alla conclusione, è impossibile, però non si può fare. Ma non c'è la volontà dell'essere, cioè di noi umani che vogliamo per forza comunque rovinare questo mondo. Cioè, e di conseguenza vogliamo per forza lottare contro il male, però poi ci sta bene perché non vogliamo. Io volevo portarla dalla mia parte, ma non ci sono riuscito. Non importa, grazie. L'importante è tentare. Raffaele da Pisa, buona serata. Allora, dove andiamo? Andiamo con Marco da Prato? Vai. Eccoci qua, buonasera. Sì. Proporrei di eliminare i preservativi, scusate la battuta. Così, proprio quelli, no, perché i preservativi? No, io volevo chiamare Pertavecchio, perché è un po' che la sto ascoltando, che ti sto ascoltando, però non ho sentito una cosa, cioè Tavecchio fa parte dell'establishment che ha rovinato il calcio italiano. Cioè, se noi pensiamo che nel 2003 due squadre italiane si sono giocate la finale di Champions League e un'altra è arrivata, mi sembra, ai quarti o alle semifinali addirittura, l'Inter. Sì. Pronto? Sì, vada, la sento. Nel 2006 abbiamo vinto i mondiali e eravamo governati da Di Carraro, Di Abete, Da Vecchio, eccetera, eccetera. Sì. Noi vogliamo ora mettere uno degli accoliti che ha contribuito a rovinare il calcio italiano. Cioè, Albertini sarà timido, ma c'aveva le chiavi del Milan, che vinceva le coppe. Tanto timido non lo vedo. Ecco, semplicemente questo. Va bene, Marco, grazie. Grazie, buona serata. Facciamo Giorgio da Bologna. forse l'ultima Pronto? Telefonata. Giorgio, buonasera. Sì. Buonasera. Niente, io volevo intervenire sul fatto, questa storia, questa guerra che c'è tra gli israeliani e diciamo l'Islam, via, diciamo questi palestinesi. Cioè, voglio dire, noi, cioè, tempo fa c'è stato questo articolo sul giornale di Ida Magli, che è un'antropologa, no? Dove si parlava, dove fece questo articolo sul resto del Carlino di Bologna, dove parlava che lei diceva che nelle prossime generazioni il popolo italiano sarà dominato da questi personaggi. Quali personaggi, scusi? I personaggi dall'Isla, il pericolo è questo. Cioè, non è quello che dico io, diceva sì. Ciò, Ida Magli, capisci? Cioè, un'antropologa. Dove parlava di questo pericolo, delle prossime generazioni. Però, sì. Cioè, voglio dire, ma noi che cosa abbiamo a che fare? Che cosa abbiamo a che fare? Ma noi cosa dovremmo fare, secondo lei? Una guerra contro l'Islam? No, non dobbiamo fare la guerra, però Israele... No, il fatto dovremmo che appoggiare fare. Israele perché contro l'Islam. Io non appoggio, dico che Israele si deve difendere, cioè contro la barbarie, questa barbarie islamica. No, però io rifiuto la... Scusi, io rifiuto il fatto che lei omologa, assimila l'Islam con il male assoluto. Che cosa sta dicendo, mi scusi? Con la barbarie, sta dicendo delle cose, delle generalizzazioni, per non dire delle fesserie, ma forse ho capito male io. Non c'è tempo per approfondire, forse domani. Adesso siamo in chiusura, grazie anche a Fabio Cantadori in regia questa sera, grazie a Camilla Tomadini, Lorenzo Nespoli, Riccardo Poli. Buona serata da Alessio Maurizi, ci risentiamo domani 18:20:30 con Si può fare. Ciao a tutti.